Chi è Berlusconi? È un messia mandato da chi? Da Dio, che sta salvando l'Italia, e dobbiamo ringraziare che in questo millennio c'è Berlusconi, se no altrimenti eravamo fregati tutti. Sì, perché forse dobbiamo aspettare ancora un altro mille anni che arrivi un'altra persona come Berlusconi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero. Non mi par vero, un papà nero che ascolta le mie canzoni in Venezia. Immagini un papa che arriva là subito all'annuncio, no? Dopo la fumata, eccetera, da Piazza San Pietro, si rivolge a lui: io sono omosessuale. Sarebbe o no una cosa meravigliosa, me lo dica. Secondo me sarebbe veramente grande. È come quando pensa fosse nero. Ma c'è la parità dei figli di Dio. Io parlo da credente, vedi? Extra. Mando via tutti dal Vaticano, tutti, e anche l'ultimo usciere, non solo il maggiordomo. Si va per le strade, si trovano i cristiani, quelli della curia dovrebbero andare via tutti. Assolutissimamente no, perché se scritto di... Non credo che accada quello che ha detto Don Gallo qui alla Zanzara pochi giorni fa, Parenzo, non credo. Ma proprio. Io faccio una scommessa con te, scommetto 3.000 euro che questo non accadrà. Ma tu su chi scommetti per la prima fumata? Innanzitutto sarà nera o bianca fra poco? No, la prima per definizione è sempre nera, perché altrimenti non ci sarebbe suspense. E invece in Vaticano sono attenti alla suspense. Ah, solo per questo? No, no, non è lo Spirito Santo, tu dici? Non è lo Spirito Santo? No, adesso non posso entrare nel merito di queste dinamiche, perché sono poco informato. Però sono pronto a scommettere che non sarà la prima, non si dice chiamata, quella è per l'elezione dei deputati. Ma penso che sarà nera la prima. La prima sarà nera, sì. Noi facciamo il tifo invece per Don Gallo, sarebbe magnifico. Beh, Don Gallo papa, ma anche un papa nero, un papa gay sarebbe fortemente auspicabile secondo la Zanzara, Beh, clamoroso ieri sera a Piazza Pulita, un vescovo, credo addirittura un cardinale, che dice che sono i ragazzini che cercano affettività quando si incontra un pedofilo, una vergogna. E dall'altra parte oggi la situazione di fragilità dei giovani porta anche i ragazzini a cercare l'affettività carnale. Cioè, insomma, lei dice che sono i ragazzi. Cioè... Hai sentito, sì? C'è anche il vescovo di Palestrina che si chiama Sigalini. Che cioè, dice... capisci che qualsiasi cosa io dica vengo no, non devi dire niente. Non devi dire niente. Il vescovo Sigalini che dice: non spetta a me la denuncia, saranno i familiari. Signor vescovo, dovresti andare dall'autorità giudiziaria. Sono loro, sono loro a risolvere le questioni, non tra voi. Non dovete risolvere tra voi le questioni così gravi come la pedofilia, i preti che toccano i bambini. Non dovete risolverle voi. Sincerato di quello che avviene, si spinge la persona. Intanto si protegge la vittima prima, la prima cosa da fare, e quindi non si permette più al presbitero che abbia contatto con questa realtà. E poi si cominciano a dire ai genitori, alle persone che sono interessate, se fanno la denuncia. Questa non tocca mica a me fare la denuncia. Intanto oggi c'è stato il primo incontro tra i grillini e questa mediazione del Partito Democratico, questo gruppo di mediatori del Partito Democratico. Ma ti pare normale che questi grillini, adesso io dico una cosa e la dico forte, ma dovevano essere strani alle poltrone, agli strapuntini, alle cariche? Adesso pensano ai vicepresidenti, ai questori, a noi spetta questo, a noi tocca quell'altro. Ma forse che la... è successo? Forse Cataleggio no, ma io ragiono con la mia testa, è diverso. No. Che è successo? Aspetta. Cataleggio non ha dato più l'assegno, che è successo? Ma che assegno di Casaleggio? Ma smettila, che non conosco nessuno Cataleggio... io. Ma la cosa non fondamentale... Non ha accettato il computer? Che ma è la presidenza della Camera, ma di... bravo, i bravo. Vicepresidenti, gli strapuntini, le presidenze di commissione, ma dovreste rifiutare tutto questo, cari grillini, via tutto questo, via! Ma come via? Beh, questa è la democrazia. Ma però. Non via i presidenti, dovreste rifiutare queste cariche. Invece su questo loro hanno ragione, perché si devono sporcare le mani, devono cominciare a fare i conti con le regole democratiche e quindi si prendono le responsabilità. Bellissimo avere un presidente della Camera grillino, vediamo che cosa sa fare. Ottimo, vuole fare la riduzione dei costi. Vabbè, stai calmo, come al solito ti stai dilungando troppo. Intanto il capogruppo al Senato Crimi dice che potrebbe sia l'arresto di Berlusconi senza conoscere una carta, vabbè, così per principio. Alla domanda di oggi di un giornalista di un'agenzia di stampa che mi ha chiesto: ma voi votereste a favore dell'arresto o comunque dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Berlusconi? Io l'ho guardato e ho risposto: ma mi prendi in giro? Perché ovviamente è una domanda retorica, nel senso che non può che essere sì la risposta, visto che abbiamo sempre detto che l'immunità parlamentare è un privilegio che dobbiamo abolire. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Ghedini sostiene che la congiuntivite di Berlusconi è colpa di un dito nell'occhio, sentite. Ma lei sa come si è fatto male all'occhio, il presidente? Durante un comizio a Torino ha urtato contro una persona che gli ha messo un dito nell'occhio e poi da lì è partita questa infezione. Ma pochi giorni fa Zangrillo non aveva detto che era tutta una stupidaggine questo del dito nell'occhio? Ma si mettessero d'accordo, no? Uno è del collegio difensivo, l'altro è il medico personale di Berlusconi, uno dice che è stata colpa di un dito nell'occhio, l'altro dice che non c'entra nulla. Sentite, gliel'abbiamo chiesto qualche giorno fa. Qualcuno dice che questo problema agli occhi, di cui lei ci parlò già tempo fa, e anche l'ultima volta che siamo stati insieme, nasce dal fatto che un elettore, un cittadino, una volta gli ha messo per sbaglio delle dita nel... No, tutto falso. Tutto falso. Tutte tutto stupidaggini. Falso. Sì. La causa è una causa di tutt'altro tipo, ecco. Che, di che tipo? A dire la verità non l'abbiamo ancora determinata con decisione. Eccoci qui, chissà se vuole un papanero anche Paolo Villaggio. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, molto bene, sì. Vuoi un papanero, Villaggio? No, io voglio, c'è già stato, no? Quello omosessuale, avete detto voi, no? Sì, come quello omosessuale? Sì, l'avete detto voi, dai, benissimo, inutile mi nascondere. Voi avete detto che si è dimesso lui, buonanima, il tedesco, perché è omosessuale. Ah, noi l'abbiamo detto, può darsi che ci sia... Abbiate il coraggio di confermare quello che sto dicendo, perché siete voi che avete seminato di zania. Ah, noi, può darsi che l'abbiamo detto, proprio voi. Diciamo un sacco di cazzate, ma tu sei convinto ma che fosse... Infatti, guardi... L'equazione dovrebbe essere che tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio, compresi gli omosessuali come voi, no? Non c'è dubbio. Avete detto che siete omosessuali. Fortemente omosessuali, sì. No, fortemente. In maniera subdola, la più pericolosa, peraltro. Esatto, e dunque ci vorrebbe un papa gay. Quindi bisognerebbe assolutamente accettare l'idea che... Sì. È stato ricattato, buonanima. Dico buonanima perché... Voglio dire, mica è morto ancora. Da lui. No, morto però come grande personaggio, come papa, diciamo, sì. Rompere i coglioni, no, certo. In questa specie di clausura. Adesso Castel Gandolfo, vabbè. Il problema, vedete, che non sono tutti uguali gli uomini trattati di fronte a Dio, perché sì. Il papa sarà servito, naturalmente, non teme la recessione, la fame. No, certo. Assolutamente, e neppure voi che insomma seminate. No, però il Papa, lei, no, il Papa lei dice non è sarà inutile. No, è inutile, d'accordo. No, è inutile ormai, purtroppo è folklore, lei capisce, il comignolo che butta fumo. Sì, pure quello è bello. Un po' come la regina Elisabetta oppure Kate che aspetta un maschio e una femmina con un'attesa spasmodica. Questa attesa spasmodica di un Papa nuovo, sì. Ormai si capisce che non ha più nessun potere. Cioè, noi... Il potere ce l'ha solo da un punto di vista folcloristico, perché adesso, sì. Per esempio, tutti noi aspettiamo la famosa fumata, chissà perché una fumata che poi tutto considerato è nata in momenti in cui non c'era assolutamente il modo di comunicare altrimenti, no? E ancora resta. Quindi sono tutte quasi patetica la vicenda. una vicenda politica ormai il mondo, soprattutto quello occidentale, è diventato un mondo del tutto ateo. E questi invece fingono ancora di credere, altro lo IOR, l'omosessualità, la pedofilia. No, con lo Spirito Santo. Sì. Ah, ecco, ma Colomba. Lei non ci crede allo Spirito Santo che arriva lì? Beh, io sinceramente ho qualche dubbio. Ma da che cosa sono allora la scelta con lo Spirito Santo, chi è poi la Colomba? Ma non lo so chi è lo Spirito Santo. Come se non lo sai? Se non lo sai tu che fai la radio? Ma no, lo Spirito Santo, uno dice sono illuminati e scelgono il pontefice. No, quando... è la Colomba. Ah, è la Colomba che arriva lì. È la Colomba gialla che svolazza e obbliga questi. Oltretutto, quanto dura una votazione? Può durare un intero pomeriggio, no? Sì, anche, ma sono quattro votazioni. Tutta la gente naturalmente di una certa età, no? Sì, sì. E quindi i prostatici, quindi qualcuno... si cagherà addosso, non lo so, perché non possono uscire. Beh no, i bagni ci sono là. Ma perché le fa queste immagini? Lo sa, avranno dei pappagalli a disposizione per sapere. Pappagalli, ma non perché? Lo sa, ci saranno dei bagni lì fuori. Ci sono? Beh, penso di sì, lì uno può uscire per andare in bagno. Però, è un problema grave questo. Effettivamente bisognerebbe informarsi. Lei dice che potrebbero avere un pappagallo a disposizione dentro la Cappella Sistina. Non lo so. Comunque è una scena drammatica, una scena orrenda questa qua. È una scena drammatica, è una scena superflua ormai, perché non ha più senso. Ecco, per esempio, io vorrei tornare però sul Papa che sarà servito. Rispetto alla povertà che c'è nel mondo, ci sono queste immagini di Castel Gandolfo col Papa servito e riverito. Beh, sì, sa, lui vive a Castel Gandolfo dove starà da Papa, no? Sì, per sì. Ora. Poi dopo va lì in Vaticano, perché non se la sente ritornare in Germania. Sì, in una piccola chiesa restaurata. E quindi mi sembra che non abbia... Vedo un tempo un Papa aveva una grande potere di convincimento, era invece un leader adesso... d'opinione gigantesco. Adesso che manca la fede... È solo un fatto folcloristico rappresentativo. Comunque lei da Novella sogna... 2000. Tipo da Novella un 2000. Un po' come direi... Kate, maschio o femmina, quella che cioè sbaglia la stessa attesa, insomma, sono delle cose abbastanza patetiche. Ma non andrebbe abolito il papato, secondo lei? Cancellato? Si è abolito da solo, dai. Diventa un fatto turistico, no? Come la Torre di Pisa. Ah, uguale, la stessa cosa. Beh, sì, la ormai, mi dica un po' che senso avrebbe adesso non lo so, votare un papa bianco, nero, verde, ormai mi sembra che non abbia perso. Vede, poi il mondo è tutto ateo. Il mondo, i cristiani sono fatti a pezzi. Perché? Perché rappresentano i torturatori, i colonizzatori, quelli che li hanno per mille anni perseguitati, fottuti, rubacchiati. Ah, è questo, dice lei. Li fanno ormai a pezzi per questo. È molto più temibile, direi, anche per un dislivello storico notevole di 600 anni, l'aggressività dell'Islam. Un papa... Sì. Verrei veramente saggio, dovrebbe dire: signori, vediamoci tutti alla stessa rigazza. Io vestito da francescano, non da papa con anelli e quell'atteggiamento un po' di monarca medievale. Sì. Dovrei dire: ammesso che Dio esista, con molto coraggio, perché è così che va detta la cosa, ammesso che esista l'aldilà, ammesso che esista Dio, cerchiamo di capire e dirci che se c'è un Dio, un creatore, non può che essere uno solo, quello di Mohammed, di Maometto, quello degli indiani, degli ma Hindu. Non lo farà mai, e questo è un errore fondamentale. Bene, torniamo subito. Intanto Bersani, cosa incredibile, Parenzo, risponde a Celentano. Ma tu ti rendi conto? È tutto finito. Bersani che risponde a Celentano in una lettera a quello che poi Celentano aveva scritto sul Corriere della Sera, lui scrive su Repubblica. Ma perché Bersani deve rispondere a Celentano? Perché è tutto finito. Non mi molesti il moschito. Io non mi do pace, Bersani che risponde a Celentano. Ma è tutto finito. Ma si rende conto, villaggio? Siamo al dibattito tra gli uomini di spettacolo e i leader politici. Su, è tutto finito, non c'è più serietà. È un Bersani un po' disperato, no, villaggio? Che è? Chi è? È caduta la linea. Ma c'è ancora? Villaggio? È caduto villaggio. Adesso lo recuperiamo, sì. Hai capito o no? È caduto villaggio. Adesso lo recuperiamo, eh. È stato talmente anticlericale che un fulmine si è abbattuto su eccolo, di lui. Eccolo, eccolo qui. Ma Bersani che si rivolge a Celentano non è disperato, Villaggio? No, direi che va benissimo. Celentano ha un leader opinion. Voi avete un certo disprezzo per Celentano perché è un cantante. No, beh, che disprezzo, sì, no. Sì, scusi, di Grillo si è detto sempre un comico, quindi... un essere inferiore. Sì. Mi sembra che tutto considerato sia molto più acuto in questo momento nell'interpretare qual è il vero desiderio Celentano, del paese. Celentano. Grillo. Ah beh, Grillo. Quello. Lei, io lo so il che gruppo lei ha... dei giovani che ha votato per il cambiamento. Ma io lo so che lei ha votato per Grillo, l'ha dichiarato. Come scusi? Lo so che lei ha votato per Grillo, spada tratta. D'altra parte pure io ho votato Grillo. No, senza la spada tratta. Ho votato per Grillo perché ho espresso un desiderio, cioè un grande cambiamento. Ma... a me 80 anni del grande cambiamento non me ne frega un cazzo, perché so che non c'è dubbio a vederlo. Scusi, capito? Villaggio, lei chi vorrebbe presidente della Repubblica? Lo sa che online c'è una petizione Paolo Villaggio presidente della Repubblica? Senta, no, io ma veramente lo so, non sto riesco a sorridere neppure di quello che dice, ma quello è un suo destino, quello di non essere molto divertente. No, ma davvero è così? Cioè, è così, non la sto prendendo in giro. Su online c'è una petizione, Paolo Villaggio presidente della Repubblica. L'ha fatto lei? Ma non l'ho fatto io, l'hanno fatto delle persone, c'ha migliaia di ma con l'intento di prendermi per il culo. Ma no, che intento di prendermi? Sì, mio caro, perché io sono ormai un ottantenne, ex omosessuale. Purtroppo con dei problemi di incontinenza io spesso mi cago addosso. Impotente, in pubblico, impotente. Come schifo. Anche impotente, tra l'altro. Sì. Per cui lei dice al Quirinale non ci può andare. No, impotente. Io ho ancora dei rapporti con gli animali che molto sono. Quello si sa, quello si sa, quello si sa. Quello è arcinoto. Posso ringraziare Villaggio? Me l'ha detto lei una volta, me l'ha detto. No, questa è un'insidia che dice lei. Non sa. Mi dica il tipo di animale allora. La pecora? No. Il cavallo? No. La mucca? La mucca. No, la mucca. No. Il cane? Esatto, un labrador. No, vabbè, il rapporto con labrador è un'immagine tremenda, Villaggio, un'immagine terribile. Vabbè, ma posso questa è una cosa, tanto Villaggio? Voi avete poco ascolto, no? Quindi pochissimo. Sono tutti segreti che io rivelo, sicuro che non... Pochissimo. Lei chi vede Presidente della Repubblica, però? C'è un personaggio, proprio l'ideale, secondo Villaggio, lì al Quirinale... D'Alema, no, perché come... è giovane, perché i baffi... Ma no, ma D'Alema sarebbe rappresentativo, basta vecchi, naturalmente, già curvi. No, D'Alema mi sembra che sia fisicamente un buon presidente. Pure lui non è che sia un giovincello, diciamo. E poi anche sinceramente, detto con molta sincerità, quello che voi chiamate il cantante, anche Celentano come presidente. Ah, ecco, Celentano. Molto rappresentativo, Celentano. Molto simpatico. Meglio di D'Alema, meglio di D'Alema. Come? Meglio di D'Alema. Ma mandi un augurio a Silvio che è in ospedale con la congiuntivite, Villaggio. Un bel augurio. Sinceramente lo considero un uomo abbastanza fortunato, un uomo eccezionale. E lo so. E se lo sa, insomma, no, sarebbe, direi, ucciderebbe anche i genitori per diventare molto amico. Di, sembra, sì. Beh, io i genitori no, però insomma farei carte anche, false. Carte no, i genitori, un parente stretto. Quindi... mi sembra che tutto considerato... Ma questi giudici si accaniscono? Le visite fiscali? Ma che dice si accaniscono? Tutto non si accaniscono perché è un processo che va avanti da 6 anni, siamo nella seconda fase. Quindi non è l'inizio di una persecuzione. È un tentativo, naturalmente, di frenare il giudizio fino ad arrivare al momento in cui il reato sarà cancellato. Ah, vabbè, un furbacchione, Silvio, dai, su, un furbacchione. Don Gallo, come vive... Come vive? Che ne so, con lo stipendio da prete? E cioè? Non lo so, avrà uno stipendio da prete come parroco, poi le donazioni, la comunità, vive, insomma, vivacchia. È una vedetta lui ormai, perché lo vedo... Molto ricco, secondo lei, no? No, non è molto ricco, però è molto vanitoso, insomma. Molto vanitoso, io ho conosciuto la Osiris. Sì. Si ricorda? Banda Osiris, come no? Certo. Banda Osiris, aveva più o meno però lo stesso comportamento di Don Gallo. Ah, è uno molto vanesio, il signor Gallo. Sinceramente il suo presenzialismo continuo fa capire che è la vanità il vero pericolo, vede, dei politici, la vanità e poi conservare il posto fisso. Ecco, ma Don Gallo non è un politico, però No, non è un politico, però si comporta come un uomo molto vanitoso. Molto vanitoso, no, però è vero che è sempre presente lì. Ovunque. Ovunque, parla. Io volevo ringraziare Villaggio, però. Perché vuoi ringraziare Villaggio? Voglio ringraziarlo perché sono Parenzo, Villaggio, ciao. Volevo ringraziarti perché sei venuto anche questa volta gratis e non ti abbiamo dato un cazzo. E questo sono molto contento. E vabbè. Sì, sei contento, ma tu non sai che io ho tutto considerato. Ho la possibilità di rubare a man bassa nel supermarket, una cosa che perché tanto chi te guarda se è Villaggio che esce con è la roba, la verità che mi spinge certo. A fare azioni di questo tipo. Adesso vediamo se lo Spirito Santo alle 19 ci dà qualche notizia, Villaggio, sì. Sicuro che senta, ci dà. Ma adesso io devo rimanere qui tutto il tempo? No, adesso chiudiamo. Comunque questa lobby gay di cui si parla, ma esiste secondo lei all'interno del Vaticano la lobby gay? Sì, come no. Ah, esistono. Assolutamente, è una conseguenza della castità dei preti. Lei pensi, un parroco di 90 anni può darsi che tutto considerato abbia smesso, ma nei seminari dove stanno chiusi 20 anni, poveracci, e si inculano con una violenza estrema, come nelle carceri. Quindi quello che è sbagliato è la castità obbligatoria. È una cosa completamente contro natura. È questo, guardi, che soprattutto quel passaggio lei sugli è stato in carcere? No, io no, per fortuna no. Per fortuna, sì, certo che è una fortuna, perché guardi che in carcere anche per il furto... Che fanno? Stefania? No, che fanno? Appena si entra, no? Che fanno? Dito in culo. Subito. Per ispezione, poi dopo però... Se vai addirittura con un gruppo di ergastolani... Sì, e lì ti fanno la festa. Ti fanno la festa. Ti fanno la festa, è come io sono stato in carcere un mese e ho subito il subibile. Ah, anche lei ha avuto sodomia? Purtroppo sì. È stato sodomizzato in carcere. Sì, però dopo un po' comincio a capire che ci può essere anche... Il piacere. Un vantaggio. Ah, e qual è il vantaggio? Il vantaggio è che non puoi essere messo incinto, no? Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che intanto, caro Parenzo, mi ero perso una dichiarazione di ieri qui della Santanchè, quando diceva che Berlusconi viene trattato peggio dei mafiosi. Peggio dei mafiosi! Mi ero dimenticato di questa frase. Ma come peggio dei mafiosi? Ma i mafiosi sono al 41 bis. Quello sta in una suite di 200 metri quadrati, gliel'ho detto anche, in una suite di 200 metri quadrati, con stanze, idromessaggio, sempre ospedale, ma una suite di 200 metri quadrati. Poi io mi domando, ma come mai al San Raffaele ci sono stanze di 200 metri quadrati, degli appartamenti? No, ma adesso lasciamo perdere. Stiamo parlando della Santanchè, Luxemburg. Adesso lascia perdere la Santanchè. Stiamo parlando della Santanchè. Sì, d'accordo, però lascia perdere San Raffaele. Forse è meglio la Santanchè di Rosa Luxemburg. Come diceva Di Pietro, chi l'ha fatto? Ma tu sospetti che quella stanza sia ad uso esclusivo di Berlusconi, quell'appartamento? Ma non è che lo sospetto, non lo posso affermare perché altrimenti... No, magari è per clienti VIP che pagano fior di quattrini. Ma guarda, io credo che ci vada molto spesso, dopodiché se lo affermo vengo portato in giudizio da Chedini e non posso neanche avanzare l'orchite come malattia, perché mi mandano subito la cosa fiscale a me me la manderebbero subito, quindi è meglio che non lo dica. Dopodiché è verosimile che ogni volta che va lì, va in quella stanza lì, è verosimile, voglio dire. Santa che? L'umiliazione di essere trattato peggio di Totorina, di essere trattato come peggio dei mafiosi. Ma scusi, quelli hanno ucciso, hanno ammazzato, hanno fatto le stragi, ma che cavolo di paragone è? Cosa vuole, mettere al 41 bis, Berlusconi? Così ti guardo meglio. TG3, titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. I cardinali riuniti da un'ora e mezza in conclave per la scelta del successore di Benedetto XVI in attesa della prima fumata. Cambia il clima, rammarico di Napolitano alla delegazione PDL per la manifestazione al Tribunale di Milano, al Quirinale l'incontro col CSM. E il PDL apprezza la convocazione del CSM al Quirinale, intanto Berlusconi rivendica un candidato non di sinistra per il Colle. Grillo solidarietà ai PM di Milano, il Cavaliere faccia come Craxi, si faccia condannare e si dia la latitanza. Primo incontro tra PD e Movimento 5 Stelle che rivendica la presidenza di Montecitorio, Bersani pronti a rivedere i finanziamenti. L'ex direttore della Padania ed un ex consigliere regionale del PDL tra i 7 arrestati in Lombardia per corruzione nella sanità. Ultime ore di libertà per il deputato PDL Cosentino, accusato di concorso in associazione mafiosa. Venerdì si costituirà. Intanto scoop dell'Huffington Post che pubblica uno statuto dei 5 Stelle, perché accanto al cosiddetto non statuto esiste anche un atto costitutivo del Movimento 5 Stelle, certo, che è stato depositato a Cogoleto il 18 dicembre scorso. Presidente, certo, Grillo, vicepresidente suo nipote Enrico. Il nipote Enrico! Ma sei tu che apprezzavi? Oh, ma gente, stai zitto, io faccio il cronista, non faccio il tifoso come te. Segretario, il tifoso, segretario il commercialista Enrico Maria Nadasi. Ma che vergogna. Non c'è Casaleggio. Ma stai zitto, stai calmo. Io sto dando una notizia, non sto dicendo. I tre sono soci fondatori e possono decidere sulle nuove iscrizioni. Gli eletti eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato. Intanto abbiamo intercettato una telefonata, quella tra Annarella e l'onorevole Biancofiore. Sentite cosa è accaduto. Esclusivo. Chi è Biancofiore? Sì, sono io, con chi parlo? Io sono Annarella. Ma dite ieri che avete fatto a Milano. Chi sei? Annarella quale? Annarella. Ma chi io voglio sapere, ci stare a far ridere per tutto il mondo, ma che avete fatto ieri? No, non ho capito. Chi sei? Scusami, Annarella quale? Cioè, chi sei? Da dove chiami? Chi sei? Io chiamo da Roma. Ah, tu sei Anna, la signora dell'ospizio lì, del centro anziani. Sì. Ciao. Io voglio sapere, sì, ieri che cosa avete fatto a Milano. Niente di preoccupante, abbiamo pacificamente occupato le scale del... Stanno apparendo tutto il mondo, ma vi rendete conto che siete proprio di quelli fatti bene? Ma certo che ci rendiamo conto, siamo anche felici di averlo fatto. Bravi, e così andiamo avanti, apposta, sì, che mettete le tasse. Se tu, ma se guarda, tu sapessi che fuori, cosa hanno fatto di Napoli, Berlusconi l'ha in galera, Ma non ci va in galera. L'hanno passato sempre liscia, ma stavolta penso che non se la passa liscia. No, se la passa liscia anche perché è assolutamente un innocente. Annarella, se non sai le cose, però, non parlare di cose che non sai. Tu dovresti sapere che cosa gli stanno facendo. Se noi siamo stati così determinati, è perché sappiamo che cosa i suoi casi sono in tribunale. Perché è un delinquente, dai. Sono tutti quanti cosati. Sono tutti iscritti ai tribunali, quelli che stanno al partito del Berlusconi. Ma quali sono i tribunali? In che senso? Non ce n'è uno che se ne salva. Ma che cosa stai dicendo? Ma che cosa stai dicendo, Annarella? Noi siamo tutte persone per bene. Che stai dicendo? Quanto è mia nonna? Cosa? Pronto? Sono tutte persone per bene. A voglia te, a Roscia, a quella, a quell'altra, a nipote del Barocco. Ma che sarebbe la Rossa? Annarella, ma scusami, io sto lavorando e tu mi guarda, stai... Guarda, io te conosco e tu mi conosci. Appunto, ma stai dicendo te delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Il mio Bettino Grazia, non hanno nessuna licenza rubata. E Berlusconi è una persona per bene ed è innocente. Ma facci i soldi, è peggio dei preti Berlusconi. Vabbè, guarda Annarella, scusami, io sto lavorando, sono appena tornata in mano. Voi spingete il bottone del piede di sordi ogni fine mese. Magari fosse io, così, io 214 euro. Vorrei vedere quanto lavoriamo noi, poi quelli seri. Quelli seri quanto lavorano. Voi che fate? Fate le pippe ai frati. Ma che caspita stai dicendo? Scusami Annarella, io non sono abituata. Capirà, noi siamo abituati a parlare sulle cose per cortesia, io non sono abituata a confrontarmi con questi linguaggi. Nessuno fa le pippe ai frati o cose di questo genere, quindi innanzitutto ti prego l'educazione. Allora possiamo stare al telefono, altrimenti possiamo anche non sentirci, ok? Allora, poi le aggressioni io non le tollero, perché io sono una persona seria, per bene, pulita e sono orgogliosa di far parte del partito di Silvio Berlusconi e soprattutto di lavorare con Silvio Berlusconi. basta fuori, tutti perché lo conosco e so perfettamente che è una persona innocente e per bene. Sì, okay? Come viene descritto in una maniera molto diversa, forse faresti bene a leggerti il mio libro a sapere quali sono le verità su Berlusconi, forse faresti molto meglio. Ma la somma ha fatto i soldi, ma il padre faceva il bancario. Ma ha lavorato come un pazzo in tutta la sua vita, come ha fatto i soldi, ma che c'entra? Ma perché tutti quelli che hanno fatto i soldi sono tutti delinquenti? Ma lì sei diventato un indiano. Ma tutti quelli che hanno fatto i soldi sono tutti delinquenti. Non è più italiano, è indiano. Ma lo sai che gli imprenditori sono quelli che danno da mangiare alle persone? Ma che stai dicendo? Questo ha fatto da mangiare a centinaia di migliaia di famiglie in Italia, centinaia di migliaia di famiglie in Italia. Ma cosa stai dicendo? Ci sono famiglie italiane che vivono sulle spalle di Berlusconi. A tutte. Sì, vabbè. Ah, Narella, guarda, io ho da lavorare, scusami. Ciao. E così se va più avanti. Danzare con l'odioso insetto. Le telefonate di Annarella. Che te ridi, oh. Ah, cosa meravigliosa. Io voglio, se posso chiedere, direttorissimo, sì, che la signora Annarella chiami il signor Cicchitto. Questo mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe un regalo straordinario per tirarmi su, guarda. Siamo sempre alla Zanzara. Noi ogni tanto riceviamo files. Ma guarda, sei veramente un cretino, guarda. Riceviamo audio, telefonate a sorpresa, intercettazioni, è così, un porto di mare questo qua, È un baccanale, è un baccanale. 800 24 00 24, Francesco dalla provincia di Caserta, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Ieri Riccardo non c'è. Aspetta, Francesco dalla provincia di Caserta. Francesco, no, dica. Eccomi. Sì, Lorenzo, c'è un Bosco. Riccardo, ma non è un coglione, quello dietro il vetro. No, Riccardo Poli no, ma quello lì che ha telefonato ieri. Sì, ho capito. Francesco, quel fine intellettuale. Non ti preoccupare, ha già richiamato. Francesco dalla provincia di Caserta. Un uomo da baccanale, quindi lo sai, no? Ci sono... Sì. Allora, buonasera, volevo dire, io sono ho votato il 5 Stelle, no? Sì. E ce l'ho molto con i mezzi di comunicazione, ce l'ho fatta per pochi, che ce l'hanno molto su chi ha votato 5 Stelle. Si dice, è un voto di protesta, ma il mio non è un voto di protesta, cioè se io facessi un voto di protesta è perché dico, ho sempre votato sinistra o destra, questa volta per protesta voto loro, poi casomai torno da voi. No, a me non mi hanno mai dato niente, finalmente ho trovato qualcosa, poi casomai non sarà vero, è una premessa, una bella premessa. Quindi noi votiamo quelli lì, perché lo chiamiamo voto di protesta? Vabbè, secondo lei non è un voto di protesta? Vabbè, archiviamo questa cosa. Poi? Ecco, altra cosa veloce: il fatto che il 5 Stelle, secondo me, non deve scendere a patti con Bersani e con gli altri, e che gli accollano poi la colpa di questa cosa. È come se uno invita a cena una donna, questa le dice: no, guarda, non vengo a cena con te, guarda, stasera se non godo è colpa tua. Ma va detto già di no, cioè non vuole avere niente a che fare con voi. Giusto o sbagliato che sia, perché dagli le colpe? Cioè, siete ma i primi? A chi si dà le colpe? Grillo, cioè Bersani che chiede ai grillini di fare una cosa insieme, poi loro dicono no, con te abbiamo già detto di non voler fare niente, cioè, allora prendetevi le responsabilità. Ma io te l'ho sempre detto di no, quale responsabilità devo prendermi? Su questa ragione, Silvia da Parma, buonasera Silvia. Buonasera, senta, io volevo parlare di una cosa sola. Sì. E voi fate il sarcasmo, ironia, eccetera, satira più che altro sulla Chiesa Cattolica. Non solo su quella, ovviamente. Avete la libertà di poterlo fare e io sono contentissima. Però adesso vorrei che voi faceste anche la stessa cosa con le altre religioni. È inutile parlare di Papa Nero, Papa Gay. Oddio, con queste altre religioni. Ma stanno. Ah, sì, l'imam gay, va bene. Abbiamo la borsa. Si dà il caso che siamo in Italia, si sta parlando soprattutto di questo, c'è l'elezione del Papa. E se a lei non piace l'ironia, se la trova fastidiosa, eccetera, c'è un solo rimedio, quello che accade tra un attimo. È bella roba. È stata una bella figura. Cruciani e paraculo. Meno male che quelli del Partito Democratico dicevano che Grillo non parlava troppo di Berlusconi, non parlava troppo male di Berlusconi. Sentite cosa ha scritto oggi. A proposito della riunione di ieri, della manifestazione di ieri davanti al Tribunale, non vi è stata purtroppo, scrive Grillo, alcuna retata favorita dall'evento. Cioè voleva una retata per tutti quelli che erano lì. E poi scrive: Berlusconi ha paura di fare la fine di Bottino Craxi, ma sarebbe invece la sua fortuna. in fuga sulle spiagge tunisine piene di rubi, senza la rottura di coglioni quotidiana dei suoi questuanti, senza Ghedini, Alfano, Gelmini, senza Biondi, Gasparri, Cicchitto, Brunetti e soprattutto D'Alema, un paradiso terrestre. Si faccia condannare al più presto senza attenuanti e prima dell'arresto si dia la latitanza. Ci guadagnerà in salute, guarirà dall'uveite e gli italiani guariranno finalmente dall'orchite con cui li affligge da 20 anni. Sono tutti d'accordo, PDL e PD meno E. Hanno sempre fatto finta di bisticciare sulle donne di Berlusconi. Questo puttaniere qua, che cosa vuoi che faccia? Non puoi accusarlo di eccesso di puttana, una cosa. E questi 70enni che sono al governo non sanno di che cosa parlano. Gli dici hai fatto l'upload, lei ti guardano così, il crowdsourcing, cos'è il crowdsourcing? Berlusconi è andato in televisione a dire ho letto su Gogol. Gogol! Gogol ha scritto le anime morte. Ma chi t'ha pregato, sei un profeta di varietà. E allora questo nano che balzella da un talk show all'altro, lo vedete, è l'occhio del morto, è morto, non farà assolutamente niente, non sposterà niente, non sa più cosa fare, balzella di qua e di là a dire tutto. Se uno crede che Berlusconi sia vivo, allora è vivo anche Mastro Lido. Andate nella vostra lavatrice e guardateci dentro, perché, e allora, e mentre questa gente dice queste cazzate in televisione, il paese se ne va. Mi riferiscono tramite messaggio SMS che in realtà l'appartamento dove è Berlusconi al San Raffaele non è di 200 metri quadrati, come riferiva peraltro Lanza, non è che lo riferivamo noi, Lanza, ma i metri non sono più di 60 e niente idromassaggio. Vabbè. 60 metri e niente idromassaggio, dunque non 200 metri, però lo scriveva Lanza, dunque i responsabili correggano se è il caso. Trattasi di un appartamento di 60 metri quadri da San Raffaele. Non cambia il senso. Ma no, ma cambia. Uno dice 200 con l'idromassaggio, è una cosa, e dire 60 metri quadrati senza idromassaggio. Credo che paghi lui, credo paghi lui, forse non paga perché, come sappiamo, ha dato un sacco di soldi a San Raffaele. Ma sì, ma quello è l'ultimo dei problemi. Ma io, lasciamo perdere Berlusconi per un momento, ma tu ti rendi conto dove siamo arrivati con Bersani che risponde a Celentano? Risponde a Celentano, amici della Zanzara. Vabbè, caro Celentano, col dibattito culturale, ma quello vuole fare l'aspirante premier. E risponde a Celentano, ma Celentano lo devi mandare a fare in culo. Oh, ma tu ti immagini Celentano in privato, della Repubblica, in privato, con le sue pause. E Berlusconi paga? Sarebbe interessante sapere quanto paga. Mi riferiscono che paga. Beh, certo. Paga. No. Uno poteva essere anche ospitato da San Raffaele. Stefano da Roma, sì. Buonasera. Quanto paga al giorno? Sarebbe interessante. Stefano, ciao, da Roma. Buonasera, ciao. Senti, allora io mi chiamo Stefano, sono un tassista di Roma, quindi sì, ho il dente un po' avvelenato con Bersani, però voglio essere obiettivo. E perché sei avvelenato con Bersani? Scusa, il dente avvelenato, perché ci vuole far culo a tutti quanti. Ma cioè, chi? A chi? Ai tassisti. Ma non è vero, ma perché vuole un po' liberalizzare, va bene. Vabbè, sorvolamo, ma un pochino. Farmacie da moglie, sorvolamo su questo. Che le farmacie della moglie, su? Vabbè, sorvoliamo. Io volevo dire, io sono stato... Infatti io poi su Twitter mi metto come lobbista, perché sono lobbista. Sì, lobbista di che? Lobbista dei tassinari. Dei tassinari. Allora, abbracciamo tutti i tassisti che ci stanno ascoltando, tantissimi tassisti. Forza, combattete ogni giorno per quelle strade maledette italiane, maledette romane, strade di Roma, romane, di Milano. Romane. Senti, io volevo dire, Bersani, io sono stato 11 anni, sì, senza andare a votare. Ho rivotato quest'anno, dopo 11 anni, ho votato per Grillo, sì, non per protesta. Ma quanti tassisti hanno votato Grillo? Parecchi, il numero esatto non lo so, purtroppo i tassisti... Cioè, come si dividono lei che è un lobbista dei tassisti, come si è diviso il voto dei tassisti? Guarda, il voto dei tassisti generalmente... È di destra, è di destra. Tutti gli anni, cioè tutte le volte è di destra, infatti vengono qui tutti a Fiumicino, al Pormone, a far comizio, ci promettono e poi sappiamo un dente dietro. Sì, una volta che hanno preso il voto. Vabbè. Scusi un attimo, però lei di solito è... Chi è? Alleanza Nazionale, PDL, adesso Fratelli d'Italia, chi avete votato? PDL, quest'anno c'era... Fratelli d'Italia, ma insomma, poi chi hanno votato? Fratelli d'Italia, PDL, poi Storace, sì, e Grillo. E Grillo. Grillo hanno votato in molti, quest'anno insomma parecchi di noi hanno votato, sì, anche se c'era il dubbio che pure lui, se vuole, c'è un'idea strana sui trasporti, però molti l'hanno votato. Molti hanno votato Grillo. E io non per protesta, in quanto proprio dopo 11 anni ho detto voglio fare un voto dei. Però novità, c'è un eccezionale Don Dindan su Twitter che dice: pronti per la fumata, tirate fuori le vostre cartine. Allora Stefano, lei fuma? Si fuma le canne lei? No, niente assolutamente canne, no. No, vabbè. No, ma non canne, ma non lo dico tanto per nascondermi, proprio. No, poi, ma sì, mi dica la verità, quando va a casa una cannetta se la fa su. No, figurati. Ma figurati, noi ci fanno le analisi che ci fanno pagare pure una piotta, perché siccome il comune ci obbliga a fare le analisi, giustamente, dico giustamente, perché contro la droga facciamo un lavoro, e allora? Diciamo, però non è che ci mandano a NASL a fare analisi, ci mandano a quelli privati che pagano una piotta, 100 euro. 100 così, euro, sì. Per 8.000 tassisti, fate il conto. Guadagnano. Solo per quella cosa, noi paghiamo tutto, pure l'aria che respiriamo. Ma quello non lo dovresti pagare, la visita medica per il vostro lavoro non la dovreste pagare. È certo, però ce la fanno pagare. Però, ripeto. Vabbè, allora che volevi dire? Grillo, hanno votato Grillo però? Io ho votato Grillo. Tu hai votato Grillo, però un sacco di colleghi tuoi. Sì, tanti colleghi. Però De Bessani, voglio dire, secondo me sta, come dici tu, sta la frutta, no? Che risponde a Celentano. Per me, oltre che la frutta, sta a fare una figura pure te. Fumata nera, fumata nera in questo momento, fumata nera che esce copiosa, esce per copiosa. Per me Papa lo eleggono domani. Sì, per me domani. Domani. Se siamo il tassista, di Roma, le previsioni, le previsioni del tassista di Roma. Domani il Papa, avremo il Papa, almeno così lavoriamo un po' di più, capito? Schizza, panarina, bello. 50 euro al giorno di incasso, 50 euro al giorno di incasso. Cioè, col Papa dico guadagnate tu di più, però. Arrivano i turisti. Ma saranno già arrivati, no? Saranno già arrivati. No, per la messa, perché quelli devono ancora arrivare, ancora non so, arrivano a quando è fatto, per la messa, per queste cose. Col panino una bottiglietta d'acqua. Senza una lira, col panino una bottiglietta d'acqua arrivano. Però, insomma, ma lo prendono il tassì? Sì, lo prendono, però a noi ci fanno fare tutte le corsette, quelle di 5-6 euro a alberghi, ci chiamano per portarli a San Pietro, poi quando non danno all'aeroporto che piana la pancotta chiamano l'NCC, capito? Insomma, tanto vero. Però comunque c'è più lavoro, su. Vabbè, fumata nera dunque, fumata nera. Allora, ma quanti affari state facendo? Non ho capito se di più o di meno, Stefano, non ho capito niente. No, non si fa una lira perché è tutto fermo per diversi motivi. Uno, la crisi, quindi la gente non spende. Noi siamo il termometro della situazione, a me molti clienti quando li porto, diciamo da aziende, ce lo dico. Beh, noi siamo il termometro della crisi. La gente non prende, già lo prende a poco, specie i romani, i romani poi figuriamoci. Vabbè, ma adesso in questi giorni ci sarà più gente, no? Sarà arrivata gente per il conclave. Ancora è poca, no? Se tu vieni a Roma stasera, ieri e domani, vedi che i parcheggi, nonostante oggi piova e c'è la grandine, i parcheggi sono pieni, non si svuotano, non camminano. Ma quanti hanno votato? Quanti hanno votato Grillo tra i tassisti? Quanti hanno votato? Quanti non lo so. Ma però più o meno 50%, gente, 50%. No, 50% no, perché non si fida tanto ancora e rimane orientato sul PDL e la destra in genere, perché diciamo sono quelli che ci tutelano un po' di più. Lo so. Ciao Stefano, ciao. Siamo qui, dopo la fumata nera, siamo qui con Francesco Boccia, Partito Democratico, in collegamento da Bari. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Che fa a Bari? Direzione regionale del PD di Puglia. Sai che noi discutiamo. Troppo discutete. Discussioni, direzioni. Ma che ne pensa l'amico carissimo Boccia di questa lista del PD, di questo leaks, chiamiamolo così, di questa fuga di notizie, di questa lista con tutti gli stipendi dei funzionari del partito? Trattasi di dossieraggio, come dicono i nemici di Renzi? No, oppure pubblicati prima? Oppure trasparenza? No, penso sia una classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Perché? Che Renzi mi pare che abbia chiarito che non ha parlato di dossieraggio. Dossieraggio è una definizione di una retroscenista, brava ma sempre retroscenista è. Vabbè, ma comunque è una cosa che si deve fare, si devono pubblicare tutti gli stipendi, sì o no? Certo fatto come in tutte le aziende, ma fino adesso non è stato fatto, però, cioè, nome per nome è vero che come dire, no, le cifre, Luciani, le mi faccio fare una domanda banale, non c'è mica lo stipendio di ogni dipendente di ogni azienda in dove? Internet, però no, quella no, perché le aziende sono private, però sì, no, ho capito, ci sono anche aziende private che hanno contributi pubblici e ce ne sono tante. Vabbè, quello è diverso, però no, però voglio dire, ne posso prendere alcune a caso, però i dipendenti sanno benissimo quanto guadagnano gli altri dipendenti. Ma io non ho capito, vanno pubblicati i singoli stipendi no? Oppure... Io penso che sia, ma sì, ma non è mica un problema, penso che nessuno mai abbia posto un problema di trasparenza. Guarda, ma è una cosa scorretta questa cosa qui, è una cosa scorretta da parte di Renzi parlare dei troppi dipendenti del Partito Democratico, preparare questi dossier, non in senso negativo. Cioè, no, non ha preparato dossier, anche lui ha... Beh, ha preparato qualcosa, non ha mai però. Parlato, no, non ha mai parlato dei dossier. Renzi ha un'idea legata al finanziamento pubblico che aveva già manifestato durante la campagna. Ma è sbagliato, dico, aver fatto questa mossa, aver parlato di queste cose, è sbagliato? Cioè, denigra il partito oppure è una mossa corretta? No, io penso che in una fase come questa parlare dello stipendio di un funzionario, di una segretaria ha senso quanto ha senso che io le dica che tempo fa Bari in questo momento. Noi tutti oggi, noi che abbiamo responsabilità politiche, dobbiamo semplicemente parlare dei problemi urgenti che dobbiamo risolvere. Vabbè, però ho capito, qui si parla... Dobbiamo, visto che abbiamo le responsabilità, dobbiamo provare a mettere su un governo. Però d'accordo. Però, però Renzi ha parlato, ho capito, però l'argomento di cui si parla anche nella trattativa tra 5 Stelle e Bersani, semmai ci sarà questa trattativa vera e propria, è il finanziamento pubblico. Allora la domanda è questa: secondo lei va cancellato sì o no? Del 5 Stelle, quello è il tentativo del 5 Stelle di non farci parlare di esodati, per esempio, di non farci parlare di scuola, di non farci parlare Che significa? Di credito alla pubblica amministrazione. Perché? Perché noi da alcuni giorni stiamo chiedendo al Movimento 5 Stelle se sono disposti a sostenere un governo Bersani che risolva il problema degli esodati. Ma quelli non gliene frega niente, non gliene frega niente. Allora, diciamo che non gli frega nulla dei problemi reali, ma no, e ma loro continuare a fare campagna elettorale sul finanziamento pubblico. Perché secondo lei è sbagliato cancellarlo? È sbagliato cancellarlo? No, non è sbagliato. Beh, allora cancellatelo. Penso però che siccome la democrazia non può essere fatta solo dai milionari. Ma è sbagliata questa cosa, è sbagliata. No, mi faccia finire, Cruciani. Siccome non può essere fatta solo dai milionari, dai ricchi, dai palazzinari, da quelli che hanno soldi e che possono. O da Grillo, dice lei? È un milionario, anche Grillo, mi pare, no? Cioè, dunque l'eliminazione del finanziamento pubblico va incontro io penso una cosa che favorisce Grillo, no, da questo punto di vista. Penso che con grande intelligenza si può spendere. Sa, noi siamo un partito che è una comunità di milioni di persone, contendibile. Ha mai sentito il padrone del PD? Secondo lei esiste il padrone del PD? Non esiste. E invece quello, il 5 Stelle, hanno un padrone? Mi pare che abbiamo due padroni. Due padroni. Beh, oggi è stato pubblicato questo, anche. Guardi, io non mi sottraggo. Penso che siccome i tempi siano cambiati, voglio difendere la democrazia e il funzionamento di partiti liberi e contendibili, cioè quei partiti nei quali se qualcuno sbaglia viene sostituito. Probabilmente dobbiamo costruire meccanismi modello 8x1000 che consentono ai partiti di essere finanziati liberamente dai cittadini. Io posso. Cioè, voglio dire, d'accordo per il futuro, ma nell'immediato questi vogliono che voi rinunciate pure a questi contributi, cioè cancellare il finanziamento pubblico. Lei è d'accordo, sì o no? La gente vuole risposte anche semplici, lei lo sa, Boccia. Ma no, l'ha detto. Cioè, eliminare. Voi, lei sarebbe. È una sciocchezza. No, lei non rinuncerà. È sbagliato rinunciare a questa tranche. Sto parlando con uno che ha rinunciato a tutto, quindi no, ma non lei, sto dicendo il partito deve rinunciare a questa, per esempio, a questi. Diciamo, chiudiamo il partito, siccome perché si chiuderebbe il partito, dice lei. No, ma non è solo, guardi, la sede del partito non è solo Roma, sono migliaia di sedi in giro per l'Italia. Basta dire ai nostri militanti, guardate, che da quest'anno, non dall'anno prossimo, sia anche lei è contento della risposta immediata, da quest'anno il finanziamento pubblico è zero, ma ognuno di noi l'8x1000 o il 10x1000 della propria dichiarazione dei redditi dal partito, ognuno di noi sarà libero di darli a chi vuole. Cioè, voi chiudereste se rinunciando al finanziamento pubblico anche di questa tornata qui. Il partito sarebbe costretto a chiudere. Qualsiasi partito chiude se le. Ma si può fare politica anche senza soldi pubblici? E Grillo No, guardi, le dico io come si fa politica senza soldi pubblici. La si fa con un padrone che decide come comunicare, in quali condizioni, da casa sua, e non ha bisogno bisogno di sedi, tanto decide lui a distanza, se mi permette questa democrazia, e io, anche se vado controvento, voglio difenderla. No, so che... infatti, no, per carità, ma questo è corretto. Lei una volta disse anche che Grillo era un mezzo fascista, no? Anzi, un fascista. Lo conferma? Lo confermo, non mi pare... Mi pare sotto gli occhi di tutti, mi pare evidente che le sue posizioni sugli immigrati, su Casa Pound, sull'integrazione di uomini e donne che vengono da altri paesi sia molto in linea con i movimenti di destra in Europa. Poi ha un po' di idee confuse sull'euro, perché è un movimento che continua a parlare al referendum sull'euro quando, diciamo, anche gli studenti del primo anno di giurisprudenza sanno che il referendum sull'euro non si può fare, perché l'articolo 75 della nostra Costituzione, per fortuna, grazie ai padri costituenti, lo impedisce, perché i trattati internazionali non possono essere... un pallonaro da questo punto di vista, un pallonaro, un fanfarone sull'economia. No, questa non è economia, questa è, diciamo, l'ABC della nostra Costituzione. Cioè non sa nemmeno l'ABC, non conosce l'ABC della Costituzione. Il referendum sull'euro non si può fare, se vogliamo uscire dall'Europa... Però scusi Boccia, lei dice è un fascista, lei dice è un fascista, e una volta disse... Come no? Lo confermo! Ha idee su alcuni temi molto vicine a movimenti... Lei ha detto una volta, Grillo un fascista, certo, mi pare evidente che sia così, e poi mi ha detto lo confermo, è più di questo, da fascista. Si comporta su alcuni temi da fascista, ma non deve offendersi, perché no, uno che, infatti mica me l'ha detto a me. Io non ho detto Grillo è un fascista, perché così si comporta da fascista. Ha detto una cosa che non ha detto, ma l'ha detto una volta. Comunque, ho detto Grillo su alcuni temi dice cose di destra. Partito padronale, partito padronale ha atteggiamenti fascisti. Questo all'interno, ma mi scusi, quando uno non è d'accordo, lo caccia, lo espelle. Quando. Alcune persone. Ma è una setta tipo Scientology? È una setta tipo Scientology, una setta oscura tipo Scientology? No, non è vero. Guarda, un movimento che ha il 25% degli italiani, quindi ha un grandissimo rispetto. Beh, anche il fascismo aveva consenso. Ma sono liberi quei deputati? Quei deputati sono liberi, quei deputati sono liberi, secondo lei, o sono in mano ai due pupari, al mangiafuoco al mangiafuoco casaleggio? Dovranno dimostrarlo loro. Vede, in questi giorni, cosa le sembra a lei? Cosa le sembra che siano manovrati? Cosa le sembra per ora? Non mi sembra nulla, perché non li ho ancora visti all'opera. Appena entreranno in Parlamento, saranno chiamati a decidere sui temi, vedremo. La cosa che però mi chiedo, però, Boccia, è se queste sono le premesse, lei ovviamente la pensa in maniera diversa da altri esponenti del Partito Democratico su questo punto, su Grillo e su Casaleggio, perché bisogna fare una trattativa con Grillo? Non si sta un po' sputtanando il segretario del suo partito, Bersani? Cioè, non sta un po', non si sta un po' prostrando di fronte a Mangiafuoco, o no? Non si può far finta che non ci siano 8 milioni di italiani che hanno votato Grillo. Questa però è una risposta un po' paragula. No, non è paragula, è la verità. Ci sono 8 milioni di italiani che hanno votato Grillo. Ma è destinato al fallimento questo? Quanta percentuale ha questo fatto? No, mi scusi, gli 8 milioni di italiani che hanno votato Grillo devono sapere che hanno dato la delega ad una persona che oggi, di fronte alla richiesta di Bersani di sbloccare i crediti alla pubblica amministrazione, risolvere i problemi degli esodati, dice non me ne frega nulla, parliamo del finanziamento pubblico. Ho capito, ma sarà pure importante quello. Io le sto dicendo benissimo, cancelliamo, abbiamo risolto il problema degli esodati. Ma no certo che no. Però perché Bersani non firma quella cosa che gli ha invitato, che gli ha detto Grillo? Ecco qua, cancella questo finanziamento pubblico. Perché lei dice salta il partito. Quella, no, guardi, quella è una provocazione. Come no? L'ha detto lei. Una provocazione per non parlare dei problemi reali. Una provocazione. È una provocazione per non parlare dei problemi reali. Poi salta anche il partito. Lei vuole che salti il partito. No, io no. I problemi reali non li abbiamo comunque risolti, perché Grillo... Allora le faccio questa domanda fondamentale. Allora, è meglio un governo, stia attento qui che entra in campo il Cruciani pensiero, è meglio un governo con Nunzia o un governo con Beppe? Guardi, un governo per gli italiani. Che vuol dire un governo per gli italiani? Serve un governo per gli italiani. Cioè, lei preferisce fare un governo con Beppe o con Nunzia? E si trova meglio con Nunzia che con Beppe, o no? Non è serata oggi. Ma come non è serata? Perché? Non è serata. Avete litigato? Che avete fatto? Avete litigato? No, lo dico a lei. Dicevano che Grillo non parlava male di Berlusconi, a parte il fatto che oggi gli ha augurato di essere condannato, di andare anche lui in esilio, perché così potrà godersi tutte le rubi che vuole, non essere perseguitato dai vari Cicchitto, eccetera, eccetera. E beh, sentiamolo in campagna elettorale. Vai. Perché non è che non parlava male di Berlusconi, eh. Tutti d'accordo, PDL e PD meno E. Hanno sempre fatto finta di bisticciare sulle donne di Berlusconi. Questo puttaniere qua, che cosa vuoi che faccia? Non puoi accusarlo di eccesso di puttane, una così. Della normalità, perché hai scelto una strada sicura. Ed è anche il giorno della risposta di Bersani a Celentano. Ma scusi, onorevole Boccia, in collegamento da Bari, ma le pare normale che il dibattito sia tra Bersani e Celentano? Perché un segretario di un partito deve rispondere a Celentano? Ma chi se ne frega di quello che pensa Celentano? Ma siamo ridotti così? Grande cantante Celentano. È un grande cantante, lo so. Lei non mi vuole rispondere su questo, ma si è pentito di aver appoggiato Bersani in campagna elettorale, sulle primarie? Come? Si è pentito di aver appoggiato Bersani alle primarie? No. No, non si è pentito perché... Ma il futuro è Renzi? Perché abbiamo tenuto il partito su posizioni molto chiare, volendo cambiare il paese da sinistra. Poi se mi dice se sono passati alcuni messaggi in campagna elettorale... Vabbè, quello ormai è acqua passata. Senta, ma adesso le ho fatto prima una domanda un po' personale. Ma non è meglio un bel accordo con Nunzia invece che con 5 Stelle, con Beppe? Adesso veramente, sul serio. Lei andrà più d'accordo con sua moglie anche dal punto di vista politico? Noi non abbiamo nessuna intenzione di fare accordi con... un gruppo anziché un altro. Bersani andrà in Parlamento, porrà le questioni che oggettivamente sono prioritarie per il paese. Ma prima ce lo deve mandare in Parlamento Napolitano, però, se non c'è una maggioranza. Ce lo manderà. Ma l'obiettivo è quello di restare comunque anche con una sola fiducia alla Camera, magari di restare comunque in carica? No, non penso che Bersani abbia voglia di restare in carica, però il paese va messo di fronte, con trasparenza, di fronte alle responsabilità. Io dico Forza Belgio. Ma il Belgio penso in Italia non potrà esserci, perché poi alla fine... Però lei su Nunzia non mi ha risposto, ma non l'ha rimproverata per essere andata davanti al tribunale a fare quella sceneggiata? Parliamo di cose serie. No, ma l'ha rimproverata o no? Le ha detto hai sbagliato ad andare davanti al tribunale, almeno questo. Cruciani, lei rimprovera chi? Compagna? Ogni tanto mi è successo, sì, qualvolta glielo dico in privato, hai sbagliato, rimprovera nel senso mica come da padre padrone, cioè rimprovera nel senso hai sbagliato ad andare davanti. Io lo direi politicamente, sto dicendo, mica perché come se parlasse con un'altra, non con la sua compagna, con sua moglie eccetera eccetera, ma come se parlasse mi riferivo alla sua compagna quando parla di politica. Beh sì, ogni tanto quando fa una cazzata gli dico quando è successo, dico guarda hai sbagliato secondo me a dire questo, a dire quest'altro, ma sarà successo anche a lei, no? Immagino. Certo. E in questo caso è successo? Le faccio la domanda. Silenzio. Ha mai rimproverato la sua compagna che fa... Sì. O lei fa finta di non capire? Dunque lei l'ha rimproverata? No, lei ha mai rimproverato la sua compagna che fa politica? Allora, io non ho compagna innanzitutto, per cui è difficile. Le poche volte che mi è successo di avere una fidanzata che si interessava di politica, ogni tanto discutevo. La sento in difficoltà. Ma no, ma guardi, non ho nessuna difficoltà a rispondere, perché sono, come dire, lillo come un puro come un bambino. Insomma, non so come dire da questo punto di vista. Però scusi, sono io. Come lei, come me, preferisce vivere. Lei non avrà rimproverato la sua compagna che fa politica avendo idee diverse dalla sua compagna? Ma no, ma assolutamente no, guardi che sta sbagliando, sta mandando dei messaggi trasversali non capisco. La cosa importante da sapere, ma sono sicuro che è così, è che non hanno portato in tribunale la piccola Gea, perché lì la Gea vicino a Cicchitto, secondo me, si mette a piangere. No, ma quello non credo. Cioè, adesso quello francamente. Adesso poi la domanda però è quella, al di là dei bambini che non devono essere mai messi in... Parliamo di cose. No, però una risposta bisogna fare. Secondo lei, la signora De Girolamo ha fatto una cazzata andare davanti al tribunale, sì o no? Ne avete parlato almeno, avete detto, ma che sei andato? Ormai nel merito delle scelte che fanno gli altri partiti. No, ma in questo caso non è un altro partito. Noi ci siamo conosciuti, avevamo già idee e ruoli diversi e contrapposti. Molte delle cose che facciamo non sono condivise agli altri, però siccome il nostro rapporto viene ma certo lo difendiamo da tutto questo, diciamo di ma no ma infatti di, non di ribadirci quali sono le cose che uno cioè, non condivide. Non, è bello questo. Non avete parlato perché se altrimenti avreste litigato sicuramente. Beh, diciamo. È evidente che io non sono d'accordo, come è evidente e noi non è d'accordo su molte cose che noi diciamo. E noi gliel'hai detto, vabbè, noi gliel'hai detto. Siamo in città diverse. Ma Berlusconi è un perseguitato secondo te? Come siete in città diverse? Berlusconi è perseguitato, faccio l'avvocato, secondo lei posso no dare... ma così è perseguitato dalla magistratura, c'è un accanimento nei confronti di Berlusconi, sì o no? Non so, dovrebbe chiederlo a chi ha in mano i fascicoli della vita personale di Berlusconi. No, ma in generale cioè... è evidente che ci vorrebbe uno scienziato del diritto per capire qual è la condizione. No, ma non è vero che c'è uno scienziato del diritto, la sensazione è che sia perseguitato dalla magistratura, che si accaniscano anche con le visite fiscali, oppure è tutto no, normale? Io ho un'idea della magistratura, come ho detto più volte, ho ribadito sì. più volte, che è completamente diversa. Mi metto sempre nelle mani dei magistrati, vabbè, alla fine, siccome c'è sempre un giudice che giudica un altro giudice e poi c'è un giudice che ne giudica ancora un altro, io credo sempre che alla fine il giudizio che viene fuori in Cassazione rispecchia la condizione effettiva dell'imputato. Poi ci sono dei momenti di errore anche nella giustizia, e quelli di solito vengono sempre fuori dopo. Però d'accordo, non il presidente Berlusconi, né io né lei possiamo, ma non è vero, dell'argomento persecuzione o no di Berlusconi se ne parla da anni. Cioè, secondo lei, viste le ultime cose che sono successe, le visite fiscali, la questione De Gregorio, ha esagerato la Boccafini? C'è stata un'esagerazione con le visite fiscali nei suoi confronti, sì o no? Ma non è difficile rispondere. Sto parlando con uno che non... Io guardi e seguo quello che mi dice la magistratura, ho una cultura rispetto alla quale quello che mi dice un magistrato... Ma è il suo partito che parla di... cosa può parlare? Ho capito, ma... Cioè, la manifestazione, il suo partito, davanti a... Di fronte, io non ci sarei mai andato, ma questo non significa che chi ci va non è libero di andare. Il suo partito ha parlato di una cosa gravissima, di una cosa molto grave, di un attentato alle istituzioni, l'ha detto il segretario, lei è d'accordo o no? L'ha detto il segretario, la linea del partito. Vabbè, ho capito, però adesso non è che uno si può. Cioè, siccome c'è andata sua moglie, adesso non è possibile dare un giudizio su quella manifestazione. No, io il giudizio l'ho già dato, dopodiché non penso che questo cambi nulla rispetto a. Cioè, non è stata una cosa gravissima. Non è stata una cosa gravissima, una lesione dell'istituzione. È una manifestazione come le altre. Guardi, io la penso così: è una manifestazione come le altre, per esempio. Una manifestazione. Che nessun democratico avrebbe mai fatto, che tutti gli iscritti gli elettori però legittima. Guarda, ci sarà un motivo se non c'è discussione, dibattito in Parlamento. Ma è legittima sta manifestazione o no? È legittimo un attentato alle istituzioni? Non si deve manifestare davanti a un tribunale? Questo voglio capire da lei. Oppure è legittimo manifestare anche davanti a un tribunale? No, ma dentro hanno fatto. Anche dentro, entrare. Cioè, è una cosa legittima? È un'occupazione. No, è occupazione secondo te. Vabbè, niente. No, ma gli ha già risposto. Cosa vuole che le dica? No. Io non l'avrei mai fatto. Penso che abbiamo fatto un errore. Se parla con loro, le dicono che l'hanno fatto con cognizione di causa. No, fine, d'accordo, però. È il motivo per il quale non ci parliamo tra PD e PDL in Parlamento. C'è ma secondo lei ci vorrebbe una specie. No, certo, ci vorrebbe una tregua in questa vicenda dei processi del Cavaliere oppure no? Un salvacondotto, una tregua, un qualcosa che. Insomma, no? Questa è fanta politica. Fanta politica, va bene per raccontare fandoni, per scrivere pagine dei giornali, ha mai visto un salvacondotto? Non siamo mica in tempi di guerra. Beh, per esempio, guerra, quando ci fu la vicenda di Craxi, qualcuno parlava, no? C'è questo rischio, no? Che Berlusconi venga condannato e magari no, non voglia. Cioè, il rischio della galera per Berlusconi c'è, no? Io penso che se non andrà mai in galera. È successo altre volte, non lo so perché non faccio il magistrato, ma come ha fatto altre volte, si è messo nelle mani di altri magistrati, in alcuni processi è stato assolto molte volte, quindi io serenamente lo dico a tutti, anche a qualche compagno di partito che è capitato in qualche disavventura, in questi casi bisogna mettersi sempre nelle mani del magistrato. Senta, l'altro magistrato. Che percentuale ha il tentativo di Bersani? 5%, 10%, meno del 5%? Dopo che ci sono solo le elezioni? Ma non è direttamente legato al senso di responsabilità che avranno i deputati. Ma Grillo, noi i deputati, Grillo. Quindi lei sta dicendo che Grillo certo, comanda. Beh, secondo me sì, ma io sono della ma io la penso esattamente come lei. La penso esattamente come lei. Cioè che Grillo comanda i suoi i suoi deputati, o comunque tra i deputati Grillo c'è piena sintonia, sì. Non c'è dubbio su questo, non... ma poi decide tutto Grillo, di che stiamo? Guardi, di che stiamo... noi abbiamo un'unica idea chiara. E qual è l'idea? All'italiano non è chiara. Ma non si può andare in Parlamento con otto cose generiche, otto cose tutti quanti le definiscono generiche. Guardi che il Presidente del Consiglio, quelle sono otto cose generiche. Scritte, no, non sono generiche, sono l'unica cosa seria è la nona, l'abolizione del finanziamento pubblico. Su quello forse potreste avere la fiducia. Quella va bene, ce la mettiamo. Non ce la potete mettere perché non la volete fare. Al primo posto perché a Cruciani piace. No, a Grillo. Che la prima, no, guardi, le garantisco, è Grillo, ci deve dire che non vuole risolvere il problema dei crediti alle imprese. Ma eravate al governo prima, ma eravate al governo con Monti, perché non l'avete risolto? No, come no? Non è informato Cruciani. Eravate al governo con Monti. Dovrebbe no? Sapere che la nostra proposta di sblocco dei crediti alle imprese non è stata Beh, ho capito. Da una parte del governo. Senta, le chiedo l'ultima cosa. Le chiedo l'ultima cosa. Non le vincemmo le elezioni, Cruciani. Noi le no, ma questo lo so. Siamo sempre stati in minoranza, e anche col governo Monti. Noi non abbiamo mai avuto le chiedo, le chiedo l'ultima cosa. Adesso non è che tutte le cose buone erano vostre e quelle cattive di Monti e di Berlusconi. Su. Però il tema degli esodati, come sanno, ci siamo battuti. Ultima cosa, ma questi del 5 Stelle che parlano di presidenti, vicepresidenti, eccetera, eccetera, non le pare un po' bizzarro? A me sì, per esempio, che cominciano a parlare di poltrone, presidenze, vicepresidenze, questori, eccetera, eccetera. Sono come gli altri. Sono come gli altri un po', no? Guardi, le istituzioni hanno delle gerarchie interne, sono orizzontali per quanto si possano raccontare favole. C'è dunque qualcuno che comanda e quindi anche loro dovrebbero evidentemente... stanno scoprendo che le istituzioni funzionano se ci sono e dunque scoprono dei rappresentanti le cariche istituzionali e quindi hanno scoperto le cariche, quindi hanno fame di poltrone o no? No, anche no, loro no. No. Senta, l'inchiesta dell'Espresso che cosa le fa venire in mente? Lei ha parlato di elusione, come fa a essere così sicuro che Grillo eluda il fisco? Ho detto la risposta è da professionista dell'elusione. Io non ho le prove dell'elusione. Intanto non ho un autista, vado in motorino. Sì. Se avessi un autista, questa è bella. Se avessi un autista, difficilmente avrebbe 14 società in Costa Rica. E se anche trovassi un autista, che non ho perché come le ho detto vado in motorino, che avesse 14 società in Costa Rica, difficilmente le avrebbe con mia cognata. Faccia lei. C'è una roba anche questa del 5 Stelle, a partire dalla rivelazione oggi dell'Huffington Post sullo statuto, eccetera, in cui pare che ci sia il fratello, non mi ricordo che cosa, è una roba molto familiare, secondo lei? Partito padronale e familiare? Beh, di certo non è un movimento aperto. Di certo non è un movimento contendibile. Di certo i flussi finanziari sono concentrati nelle mani di un'unica persona o di un paio di persone. Beh, insomma, con questo partito o movimento però ci volete fare un accordo. Grazie, no, grazie. No, beh, come no? Cruciani, come no? Come no? Noi li sfidiamo, è diverso. Li sfidiamo. Ma che sfidate? Ma se quelli vi vogliono distruggere, ma vi vogliono distruggere loro, non avete capito? Se voi trattate, loro chiederanno sempre di più. Noi li sfidiamo, no? Ma che noi sfidate? Non ma dove? Mica Cruciani, lei all'OK Corral. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Noi li sfidiamo, poi che ci dicano di no, vabbè. E dopodiché decideranno gli italiani, come sempre. Grazie. Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Siamo qui, 800 24 00 24. Ti leggo solo alcuni messaggi che mi sono arrivati su Boccia, persona che io adoro dal punto di vista, come dire, di personale. Potete dire a questo che mi ha convinto, non voto più PD. Ho votato 5 Stelle, ho quasi pentito, ho sentito Bocci e ripeterei Movimento 5 Stelle, Andrea da Roma. Poi ancora, ma questo ha un'opinione, un cervello alle palle per esprimere una semplice opinione, che tristezza, Max. Questo Boccia fa ridere, è possibile che in 10 minuti non abbia dato una risposta, vabbè. Vittorio da Milano. Sì, buonasera. Dica. Allora, io ho una curiosità e una domanda da farle. Come mai lei si diverte così tanto a sbeffeggiare, a ridicolizzare una persona come Bersani, che credo sarà limitata, avrà fatto i suoi errori, ma credo che sia una persona onesta, e credo che le persone oneste non vadano sbeffeggiate in questa maniera, come fa lei. Sbeffeggiate in che senso? Scusi, cosa ho detto di particolarmente drammatico? Tutto, ma lei lo non fa altro che fa solo questo di mestiere, quindi lo sto... Cioè, che cosa? Sbeffeggiare Bersani? Sì, non mi pare proprio che il mio mestiere sia quello di sbeffeggiare Bersani. Noi ce la prendiamo un po' con tutti. Dopodiché, ho la mia opinione sul tentativo di Bersani, non su Bersani come... tentativo di Bersani, non su Bersani come persona. Ascolti. No, ma ascolti cosa? Cioè... No, mi faccia dire un'altra cosa. Adesso lei mi ha risposto, adesso io... Ho capito, ma non è che le cose restano appese così, come se io avessi come mestiere quello di sbeffeggiare Bersani. Abbi pazienza. Poi lei mi... Allora, l'altra domanda non la vorrei fare a lei, sì. Vorrei rifare ai suoi direttori. Ma la faccia come fanno a tenersi lì una persona come lei, sì. Così arrogante, cinica da vomitare, perché... Sì, vomiti pure. Ha fatto parlare... Quante volte ha vomitato oggi? No, stasera mi veniva da vomitare perché quando parlava... Vomiti adesso, adesso. Quando lei ha fatto parlare Villaggio. Sì. Voglio dire, io in macchina... Avevo i miei nipoti, ho spento la radio perché, sì. Voglio dire, è possibile, anche lei si esprime in questi termini, sì. Bersani deve mandare a fanculo questo, deve mandare a fanculo quell'altro, ma insomma, sì. ma può lei stare in una radio così? Io faccio un appello a tutti quelli che ascoltano La Zanzara, dico andate su Radio 1 che adesso c'è Zapping, c'è una persona seria e corretta, sì. Non c'è più Aldo Forte. Faccia questo appello, faccia l'appello forte, sì, faccia l'appello più forte. Da stasera è l'ultima volta che io non accenderò più, sì. Radio 24 alla sera. Anzi, la mattina l'ascolterò ancora perché c'è una persona seria come Mila. Lei, sì. Non è una persona seria. Benissimo, ma questo era chiaro che non lo so. Lei è un cafone, sì. Un cafone arrogante e saputello. Sì. È una persona intelligente che usa male la sua intelligenza. Benissimo, Vittorio, e contento. Poi, pure poi io voglio dire di più. Si è sfogato? Sì, non mi sono sfogato. Si è sfogato? Mi sono sfogato. Lei non può stare in una radio. Si è sfogato? Si è sfogato? No, non mi sono sfogato. Ma devo dire anche al suo amico. Ma questo qua chi lo decide se io resto o non resto? Scusi. No, io scriverò una lettera. Ma lei può scrivere quello che vuole, ma sai quante persone scrivono lettere? Va bene. Io voglio vedere fin quando lei può resistere a fare il cafone in una radio. Sì. In una radio così. Cafone lo dice lei. Cafone lo dice lei, ovviamente. Se sta ascoltando Parenzo, che ormai Parenzo si è fatto plagiare da lei e addirittura, sì. Usa i suoi stessi toni di voce, fa anche lui le menate così. Oh, che vergogna! Cioè, voglio dire, ma veramente dimostra poca personalità anche Parenzo, perché secondo me posso dire una cosa? Sì, si faccia rispondere da Parenzo, appello, dato che con me le viene da vomitare. Ascoltatori, non dovete spegnere immediatamente la Zanzara, non ascoltateci più, da oggi non dovete ascoltarci perché ci saranno cose molto, molto, molto pesanti. Andare su Zapping, che è una bella trasmissione. Sì, bravi, sì. Bravi, sì, sì, sì. Sì. Cioè, se volete farvi due palle così, andate... Non potete prendere per il culo la gente e trattarle male. Sì, ma chi? Ma lei si fa trattare male da solo, questo è il punto. Cioè, il problema è questo qua, che lei si fa trattare male da solo, a parte che io non l'ho trattata affatto male ed è il contrario. È lei che mi sta insultando da 5 minuti e io sto zitto. Per cui stiamo, cioè, precisiamo. Ma precisiamo questa cosa qua, Vittorio. È 5 minuti che io mi faccio dire di tutto perché mi diverto, perché è una persona simpatica, eccetera. Io mi diverto come un matto. Ha problemi io lei? Io faccio un mestiere di responsabilità. E invece io mi diverto come un matto, perché le scocce che io guadagno divertendomi le scoccia, perché lei invece si fa due palle così. Invece io mi diverto, vedo un po'. Qual è il problema? Le scoccia questa cosa qui? Io ho un lavoro di responsabilità. E chi se ne frega? Non me ne frega niente che lei ha un lavoro di responsabilità. No, a me che lei faccia un lavoro di responsabilità o no, non è quello l'argomento di discussione, capito? Cioè, non è l'argomento, non è che lei fa un lavoro di responsabilità. Se lei fa un lavoro di responsabilità, va benissimo per lei, sono contento per lei, sono contento per la società. Ma la frase. E qual è la frase? Noi oggi, sì. Voglio dire, abbiamo le nostre aziende a rischio. E pazienza, se ascolti, dei perché grossi davanti, e allora e lei si diverte a prendere, sì. Il tifo Bersani, ma che perché? Forse è l'unico che va sostenuto a fare un governo. Ma se lei fa il tifoso di Bersani, la colpa non è mia. Non faccio il tifoso, cioè, lei è tifoso di Bersani. Se lei, ma se lei è tifoso di Bersani, non è la responsabilità non è mia. Cioè, a me non me ne frega niente lei che lei è tifoso di Bersani. Lei non deve sbeffeggiare. Ma io non sbeffeggio tutti, io posso. Sì, lei lo sbeffeggia. Io per fortuna in Italia c'è la libertà di sbeffeggiare chiunque, ha capito? Va bene, allora, ed eventualmente c'è il codice penale se uno. Alla radio di Confindustria. Alla radio di Confindustria, alla radio di quello che si. Una lettera a Confindustria. Ma lei faccia tutte le lettere che vuole, ecco, no? Può fare tutte le lettere che vuole, guarda, può fare... mi raccomando la carta bollata però, la raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa sera è fondamentale. Questa sera sappia che io non ascolterò più, quindi dica tutto quello che vuole, ma quello che cacchio vuole. Ma la raccomandata con ricevuta di ritorno, mi raccomando, Non si preoccupi. Mi raccomando, con l'indirizzo giusto, Tranquillo, non con tranquillo, l'indirizzo non giusto, con l'indirizzo giusto, altrimenti non, se qualcuno le vuole rispondere, non, ma io le voglio bene, questo è il punto, capito Vittorio? Io No, lei si deve comportare meglio, perché lei è una persona intelligente. Io mi comporto come voglio, allora, forse non ha capito bene. Io lei la usa male. Ma questo lo dice lei, la io potrebbe usare molto ma meglio. Quello, vabbè, ma me lo faccia dire da mio padre e da mia madre. Ci sono delle persone intelligenti, probabilmente anche Goebbels era intelligente, ci sono anche, non so, Sgarbi, una persona intelligente, ma lo usa male. Sì. Giuliano Ferraro, una persona intelligente, lo usa male. Lei è uguale, è arrivato il tribunale del popolo, su, è arrivato il tribunale del popolo. Benissimo, il tribunale. Mi ricorda qualcuno lei, guardi, mi ricorda io qualcuno. Ricordo qualcuno? Mi ricorda qualcuno, no, mi ricorda qualcuno. No, io non mi ricordo. Mi ricorda qualcuno lei. È lei che deve trancia le persone, sia calmo. Può parlare anche se telefono la vecchietta, lei la brucia, la... No, io non lo so come fanno a sopportarlo. La mia domanda è questa, non a lei, sì. Alla direzione di Radio 24. Oh, ancora con sta storia. Scriva sta lettera, non mi rompa le scatole, su. Va bene. Scriva sta lettera, faccia le proteste che vuole. L'ho fatta parlare 7 minuti, mi sono fatto rovesciare addosso tutta la merda possibile e immaginabile. Stia tranquillo, stia calmo, scriva la lettera. Io sono tranquillo, lei è tranquillo. Scriva la lettera, ha protestato. Cioè, qui c'è il massimo della democrazia. Mi sono fatto tirare le pietre in testa, mi sono fatto dire di tutto. Però stia calmo, stia tranquillo. Come si fa a tenere, come si fa a tenere. Io lo dico io lo spiego, non si preoccupi. Le spiego come funziona il mondo, il mio mondo. Poi lei mi spiega come funziona il suo mondo, va bene? Siamo d'accordo? Bene. Scriva questa lettera, stia tranquillo e stia calmo. Beh, caro Parenzo, collegamento speciale, come avrai capito. Mamma Presidente, mia. Buonasera. Caro Cruciani, buonasera a lei. Mi consenta, prego. Avendo ascoltato pochi secondi precedenti al mio intervento, di dire che lei ed io abbiamo in comune la caratteristica di lavorare divertendoci. Ah beh, certo, non sapevo che lei si divertisse, Presidente, però. Pensavo In questa fase devo dire che vista dal colle... Sì. È un bel circo. È un bel circo visto dal colle. Beh, certo, dunque c'è un pizzico anche, come dire, l'osservazione del mondo che sta sotto il Quirinale provoca anche ogni tanto le strappa qualche risata. O no, Presidente, scusi. Diciamo che presidenzialmente non si giunge alla risata, ma diciamo che un sorriso benevolo giunge senz'altro da questo colle. Anche recentemente devo dire che aver ricevuto insieme gli onorevoli Alfano, Gasparri e Cicchitto, mamma mia. Devo dire che commentavamo con la signora Clio che mi diceva ma sembra una propaganda degli sgommati. Anche con la signora Clio avete commentato. Senta, a proposito... insomma, lei ha detto che ha espresso profondo rammarico per questa manifestazione del PDL davanti al Tribunale. Ci può dire qualcosa di più su questa manifestazione del PDL? Ecco, che cosa ha sentito, Presidente, quando ha visto quelle immagini di questi deputati che entrano in Parlamento, eccetera, eccetera? Che è caduto il Quirinale? Ho sentito, non voglio giungere a dire in bilico, ma senz'altro minato, il senso istituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, per la magistratura tutta, per chi con senso del dovere, anche sprezzo del pericolo talvolta, quotidianamente garantisce che questo Paese abbia una difesa dei diritti di tutti e di ciascuno di noi. Ah, benissimo, questa è una difesa. Devo dire che quando si degenera poi si rischia di cadere nel ridicolo. Ah, non c'è dubbio. Dunque, è ridicolo. Beh, questa è un altro, un'altra cosa interessante. Scusi un attimo, Presidente, però le volevo chiedere una cosa. Ecco, in questi giorni si parla molto, ne ha parlato anche il direttore del Corriere della Sera, di una sua possibile rielezione. Sua moglie cosa dice al riguardo? Sono curioso di questo aspetto. Una possibile... Alla notizia della possibile rielezione, sì? La dolce Clio si è fumata 4 pacchetti di Marlboro. Ora, non so dirle se... per la speranza che questo avvenga o diciamo per il contrario. Beh, questo sarebbe interessante capirlo, insomma, cioè, sua moglie si è innervosita per questa cosa, all'idea di restare al Quirinale. O tifa per la rielezione. O tifa invece. Beh, devo dire che qui si sta bene, insomma, non manca nulla. Beh, quello... Anche dopo l'incontro con i suddetti, ho convocato il Consiglio della Magistratura, sì? Devo dire che è stata una pepata di cozze veramente di grandissima qualità. Quindi, per cui lei, insomma, si diverte ancora a stare al Quirinale, insomma, diciamo la verità. Diciamo che la funzione ha una grande responsabilità, ma non posso dire che non ci siano momenti in cui ancora godere della capacità, dell'intelligenza delle persone più nobili che ancora calpestano il patrio suolo. Senta, proprio un'ultimissima cosa, poi la lasciamo perché so che la linea è un po' così, lei ovviamente non ha molto tempo. Caro Cruciani, lei mi chiama alle 20:30 qui, sì. A un certo punto si mettono le gambe sotto il tavolo. Non c'è dubbio. Ecco, io la cosa che le voglio chiedere è questa, ma mi dica la verità, questo tentativo di Bersani, questo incarico, glielo darà oppure no? Oppure la strada è molto molto complicata, me lo dica proprio in sincerità in 30 secondi, Presidente. Ma io ritengo che darò l'incarico a Bersani anche solo per il gusto di vederlo andare a sbattere. Ma come? È lo stesso partito? Presidente, stesso partito, ma bisogna anche dire che è un partito che ha avuto molteplici possibilità di eccellere e ancora una volta qualcuno lo ha tirato a fondo con una zavorra. Ma questo è un giudizio pesantissimo, Presidente, nei confronti del PD. Diciamo che è un commento, non ho usato parole dirette nei confronti del segretario, ma devo dire che insomma per un anziano vedere giovani che vengono avanti sarebbe davvero una buona cosa, quindi ancora diciamo la vendetta potrebbe essere bagnata in acqua dell'Arno. Cominci a mettere le gambe sotto il tavolo, grazie Presidente, buona serata. Stasera sì. Cavatielli. Buonasera, grazie. A lei. Borsa, collegamento con Napolitano, sempre formidabile, sempre pungente, Presidente. Quando uno lo becca in queste situazioni così poco prima di cena, no, Parenzo? In una situazione no, è sempre anche... disponibile a rispondere, mi stupisce che appunto interviene al focus economia, ma interviene alla zanzara. Quello è chiaro, perché... Beh, è chiaro. Non me moleste moschito, non me moleste moschito. No me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Francesco da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Buonasera. Io la volevo ringraziare perché a suo tempo difese a spada tratta Giannino per il fatto che non fosse stato reintegrato nella conduzione del suo programma abituale. Io non ho difeso questo, attenzione, lei non ha capito bene questa cosa qua. Io ho difeso il principio, non l'obbligatorietà di un reintegro, ha capito? Il principio, esattamente. Il principio che a decidere fossero altri, diciamo, e chiudo qui. Esatto. La domanda poi se uno decide di se le persone legittimate decidono di non farlo rientrare, ovviamente non posso esprimere un mio parere personale, ma questo non vuol dire nulla, però insomma, a deciderlo devono essere le persone deputate a questo e non altri, punto. Ma io credo che se Giannino ha svolto bene il suo lavoro deve rientrare, ma vabbè, poi andiamo avanti. Era questo il mio oggetto della questione. La domanda che facevo io era questo qui, siccome purtroppo io ho votato per lui, abbiamo preso meno voti di un rappresentante di istituto che ha pagato un po' lo scotto del fatto delle lauree inventate e quant'altro, insomma, adesso che, come avete fatto sentire all'inizio della trasmissione, che Dini ha mentito screditando lo stesso medico personale di Berlusconi relativamente al discorso del dito nell'occhio. Vabbè, non mi pare una cosa, no, queste... non mi pare una cosa da processo penale, insomma, no? Il dito nell'occhio no. Assolutamente, però dico, qual è lo scotto allora che loro dovrebbero pagare dicendo tutte queste puttanate tra virgolette, insomma? Ma che dovrebbero pagare adesso, insomma, lei ha mirato male, però, cioè, non ha centrato bene la cosa. Beh, comunque sia, c'è sempre una menzogna alla base. Vabbè, Roberto. Quindi... da Roma, buonasera, grazie Francesco. Roberto. Pronto? Sì, dica. Allora, desidero per favore dare una testimonianza, sì, sul caso delle visite fiscali nei confronti del presidente Berlusconi. Sì. Io sono un professionista che ha operato per tanti anni fiscali, sì, nei confronti sia di dipendenti pubblici, sì, e anche altri funzionari impiegati, sia dipendenti privati. Sì. E poi per un incarico particolare pubblico che ho avuto a Roma, sì, sono stato inviato molte volte a domicilio di gente, diciamo, con gravi reati, gravissimi reati penali. E allora? Mi accompagnavano i carabinieri. Quando io andavo a domicilio, sì, vedevo prima la certificazione del medico curante, sì, poi facevo un esame obiettivo, visto, constatando se avevano ferite, come era dichiarato, se avevano fasciature, scottature, misuravo la temperatura, la pressione, non contestavo mai se c'era un accertamento diagnostico particolare, prima cosa. La seconda cosa, ecco, quello che mi meraviglia, e per la mia attività è lunga, quello che mi meraviglia è che per il presidente Berlusconi è stato trattato dall'autorità giudiziaria così come venivano trattati quei criminali. Quelli l'avevano detto, erano criminali, me l'avevano detto, avevano fatto reati. Ma lei dice che le visite fiscali si fanno solamente per i criminali pericolosi, eccetera eccetera, quando c'è il dubbio che effettivamente quelle certificazioni mediche possono essere state, sì, concordate? Sì, sì, ma venivano magari le fanno anche per altri, non necessariamente per i criminali mafiosi, o no? Guardi, venivano utilizzati i medici di struttura pubblica, portati dai carabinieri, perché erano persone indagate per reati gravissimi. Non posso dire queste persone, non si può dire. Non ho capito, lei ha trovato queste visite, inopportune, dunque inappropriate? Dunque, esagerate. Va bene, grazie Roberto. Ma abbiamo Riccardo da Roma, mi sembra di capire. Riccardo, quello di ieri sera. Riccardo, ciao. Salve. Che è successo? Che hai sentito stasera? Niente, le solite stronzate. Comunque adesso mi sa che si è contenuto un po', quindi non... Ecco, ti hanno sedato, vedo. Molto. Ah, oggi ha avuto effetto quella doppia dose che ho chiesto di farti e sono felice perché i farmaci aiutano a far star meglio. Vabbè, bene, ecco, bene. Ma hai detto sta cazzata e basta, ok? Hai detto sta cazzata e basta. Adesso sono contento, contento, perché ieri l'hanno legato a letto. Che mi avete telefonato per parlare di qualcosa che è successo ma oggi. Di che cosa vuoi parlare? Ma di che cosa vuoi parlare? Perché non ti fai curare? Non devi parlare, devi curarti, amore. Curati, amore. Pronto? Sì, Riccardo. Curati. Riccardo. Pronto. Curati. Pronto? Sì. Sì. No, ma l'hanno sedato bene oggi. Curati, cioè. Pronto? Sì, sì, lo so, senti quello sì, che ti dice. L'hanno sedato, è tranquillo oggi, bene. Ecco, contento, adesso bene. Mi senti. Sì, sì, vabbè, no. Adesso mo stai zitto. Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto. Però scusa Riccardo, oggi c'è stato questo stop di Napolitano. Sta già passando l'effetto della doppia dose, cazzo. Questo stop. Mamma mia, coglione, basta! Questo stop di Napolitano al PD. Devono andare subito lì a sedarlo di nuovo. Per cortesia, in corsia. Però c'è stato. Ma come fai a condurre la trasmissione con questo qui sopra? Cioè, veramente non si sente. Cioè, non si capisce. No, adesso arriva, stai tranquillo, Riccardino. Scusa. Stai tranquillo Riccardo arriviamo. Però c'è stato anche lo stop di Napolitano al PD. Tranquillo, amore, tranquillo. Adesso... Vabbè, allora. Non è vero che Berlusconi è un criminale, stai tranquillo, ti vogliamo tutti bene. Sì, Berlusconi sono suoi quei capelli, vai tranquillo. È un criminale perché lo dici tu, ma fammi capire, ma è un criminale perché lo dici tu? No, ma è Berlusconi un non si trucca, stai tu, tranquillo. Lo dicono i coglioni dei comunisti, amici tuoi, che hanno i tribunali di merda come in Cina, che decidono loro, fanno l'avvocato, il processo, le prove, costruiscono tutto loro con una montatura del cazzo. Cioè, stai tranquillo, scusa, va tutto bene. Allora, Berlusconi è l'uomo che più processi in Italia, più udienze, più inchieste in corso, più milioni spesi di avvocati, Allora, o quest'uomo è Satana, giusto? Allora, forza il cervello. Allora, o quest'uomo è Satana, giusto? No, è Satana e quindi le ha fatte. E ha la voce meno impattata di ieri, però, per fortuna. Meno impattata. E anche in quel caso i giudici sono dei coglioni, perché c'hanno davanti uno che ha fatto centinaia di migliaia di reati. No, hai ragione. E ancora non sono riuscito a metterlo in galera. No. Sì, allora, hai ragione, Gesù è morto dal freddo, stai tranquillo. Però Gesù, scusa Riccardo, oggi Napolitano ha detto che insomma quella manifestazione davanti al tribunale non andava proprio bene. Tienilo poco perché sennò si arrabbia. Tienilo poco perché adesso stanno arrivando gli infermieri, se no si carica, lascia tranquillo. O comunque sulla stampa, la Repubblica, sulle 24 ore, insomma tutti i giornali comunisti o pseudo comunisti, giustamente tu leggi strigliata di Napolitano al PDL e cazzate del genere. Perché se invece leggi la vera notizia invece è che Napolitano non è accomodato di CSM, perché anche se lui è di parte, però lui si rende conto che stanno a cagare fuori dal vaso, cioè non... Vabbè, adesso non è proprio, uno... Se vogliono la guerra civile, se vogliono lo scontro di piazza, perché probabilmente questo... Se vogliono la guerra civile, allora mettete il capo dell'opposizione in galera. Come fanno nei paesi dove vogliono scatenare la guerra civile, le rivolte in piazza, tu metti uno votato da milioni di persone, da 8, da 10 milioni di persone che lo continuano a votare, cioè ai comunisti, quello che non entra in testa è proprio questo, che più merda gli tiri addosso e più la gente lo vota, o al limite si incazza e vota Grillo, ma comunque non votano i comunisti. Ma non posso, hai capito? Questo non vi entra in testa, cioè a voi non vi voteranno Parenzo, mai. Parenzo, è rivolto a te. Sì, no, ma io sto parlando un attimo col primario. È rivolto a Parenzo, è rivolto sto parlando col primario. Ma rispondi nel merito, perché è interessante questa analisi. Quello che non entra in testa agli intellettuali radical chic, alle teste di cazzo come Gad Lerner, chi cazzo è quella, la Bignardi, tutti sti coglioni con la puzza sotto il naso che presumono di fare gli intellettuali e di educare il popolo, e che al popolo fate schifo perché piagnete miseria, ci avete la villa in Sardegna, coglioni, guarda, ma te la vedi la pubblicità della 7, no? La 7, radical chic, per eccellenza, dove sono tutti politicamente corretti, tutti di sinistra, con Mentana, mitraglietta, tutti puliti, hai visto la pubblicità che mandano sulla 7, Porsche, BMW, Cayman, comprati la nuova Cayman, cioè, perché hanno loro e i soldi che c'hanno loro, no? Ma questo invece arriva uno del popolo, Berlusconi, che veramente fa gli interessi dei lavoratori, la gente che lavora, certo. Perché lui è uno che ha sempre lavorato nella vita sua, sempre. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, soy stanco como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno, no le importa mucho si no prendo sueno, no le importa mucho si no prendo sueno. Pequeña zanzarita. Mauro da Roma, buonasera Mauro. Oh, finalmente Cruciani. Un attimo. Chi è questo? Adesso ti dico. Riccardo è tornato in corsia, no? Quando ha detto che sono le 24 ore comunista, poveri il medico che era qui vicino a me. Che ha fatto? È sobbalzato. No, diceva che ha fatto la diagnosi sbagliata perché gli ha dato 200 ml ieri. Infatti all'inizio era più tranquillo. Sì. Voce impastata perché era più tranquillo. Beh, dovevano dargliene 400 ml perché... Beh, guarda che molti lo ritengono il vero leader del centrodestra. Qualcuno ci ha scritto lui il vero leader Riccardo, del centrodestra. Sì, per Riccardo da Roma. Sì, effettivamente ha toni moderati, un po' più di Cicchitto. Sì, è vero. Guarda, sei veramente un cretino, guarda Cruciani. E saresti un amico del centrodestra? Sei proprio un cretino, guarda, sono amici tuoi, tu e quel cretino di Parenzo. Mauro da Roma, allora, Mauro, dica. Pronto? Dica. Buonasera Cruciani. Vada. Io sono il medico di Riccardo, quello che l'ha preso in consegna. C'è lì Parenzo? Ah, lei è il medico di Riccardo? Grazie. Sì, quello che ha preso in consegna Riccardo. Ma perché è lì accanto a lei, Riccardo? Sì, sta vicino a me, sta benissimo, ma io mica prendo in consegna Riccardo, ne voglio prendere in consegna Parenzo, quell'imbecille. Perché che ha fatto adesso? Ecco, su, che ha fatto? Ecco un altro. Come ecco un altro? Parenzo, scusi, ma lei fa ecco parte anche lei del gruppo ecco di 180... 180 dirigenti del PD che si sono intascati 12 milioni e mezzo di euro. Ma non è che sono intascati, dal partito. Sono intascati, no, intascati il finanziamento pubblico 12-13 milioni di euro per il partito. Anche quelli del PDL, perché il giornalista Parenzo non prenderà i soldi pure da loro? No, guarda, dal privato, cornuto, dal privato, cornuto, dal privato prendo soldi. Ho mai preso soldi. Senti, cornuto. Parenzo, cornuto ci sei tu. No? Può essere quella quello compagna può essere. Che ti porti a letto, ma non so se neanche la puoi riportare. Stai tranquillo, letto, stai tranquillo. Quello si vergogni perché è una persona molto maleducata, è un asino purtroppo, ma quella io l'educazione sono, non la si tu impara. Mi hai dato del cornuto, asino. Comunque, in ogni caso, cornuto, intellettualmente cornuto, ho detto intellettuale cornuto. Beh, intellettualmente non l'avevi detto. Ho sentito quel vomito di boccia, capito? Siete vomito, non esageriamo, su, vomito. Che ha detto? In 4 anni si sono bruciati 247 milioni di euro il PD. Finanziamento pubblico, sì, ma lei... Non glielo ricordo, no, ma è vero, ha ragione lei, che ci sono troppi soldi in giro dati ai partiti, troppi soldi, e nessuno... Ma che cosa dicono? Che gli servono perché sennò la politica la fa solo chi c'è soldi? Ma siete dei pezzenti mentali. Beh, adesso... Scusi, genio della lampada, grande intellettuale, della lampada. Scusa Parenzo, ti faccio presente che il genio della lampada, sì. No, il genio della lampada, intanto sono un medico, sì. No? E va bene, ma purtroppo infatti il declino dell'unità italiana è nota. Un dirigente guadagna 8.000 euro, capito? Un dirigente che organizza le feste per l'unità, le feste del PC. 8.000 euro, sì. 8.000 euro. Allora io ti faccio presente che con 8.000 euro ci paghi 3 medici, capito? 3 medici. Ma io ti dico, se lei vuole... dici. Allora il problema non è pagare 3 medici, il problema è che quei soldi lì che sono destinati ai partiti come al PDL. Ed è una vergogna, una montagna di soldi, e nessuno avrebbe rinunciato. Io nessuno avrebbe rinunciato PDL, fino a qualche mese. Ma lei, ma PDL. tu hai ragione, bisogna sapere le spese di tutti, certo, le spese del PDL, poi, le spese dell'Italia dei Valori, esatto. Le spese di tutti. Ma toglietele a tutti, fate il 5 per 1000, chi vuole vedere i soldi come la chiesa, capito? Poi morirete tutti di fame, te lo dico io, perché il tesoriere del PD sta aspettando che gli date 43 milioni, se no manda tutti a casa. È giusto, capito? È giusto, ha ragione Mauro nel suo linguaggio, ha ragione lui, i partiti sono tenuti, ridotti, va cancellato il finanziamento pubblico. Ma perché se lo dice? Vanno cancellati tutti. Va cancellato il finanziamento pubblico. Lo aveva deciso anche un referendum. Ti fanno schifo i referendum, Parenzo? Ti fanno schifo adesso i referendum? Ti fanno orrore i referendum? E allora perché non vuoi seguire la volontà della gente che ha detto che andavano cancellati i finanziamenti pubblici? Perché? Perché? Per mantenere i funzionari di partito? Per mantenere... Ho detto che i funzionari di partito vanno ridotti, ma sono strutture utili alla democrazia. Ma quello, ma lascia questo, perdere, questo ma chi medico, dice il contrario? Chi dice il contrario che i partiti non sono... Ma che Volgarotto? Che ha detto di strano? Ha detto che vanno cancellati il finanziamento pubblico. L'ha detto a modo suo, nel modo del popolo, l'ha detto, nel modo del popolo. Si siede a tavola smoccolandosi e mettendo i piedi sul piatto. Mauro, lei mette i piedi sul piatto? Il libro saggio sulla lucidità di Saramago, premio Nobel. L'ignorante, l'hai letto? Ma che c'entra questo adesso? Scusa. L'hai letto? Vattelo a leggere, così capisci quello che sta succedendo in Italia. Ci siamo rotti i coglioni di gente come voi, chiaro? Ecco. Chiaro? Ma come voi chi? Ma lavati le mani prima di andare a tavola, ma non mettere i piedi nel piatto. Non ha mai preso i bucati. Ma fatela finita con questo atteggiamento di professorini. Ma professorini di che? Ma quali professorini? Ma smettetela. Semplicemente che sono a favore della riduzione dei costi della politica. Alla società? Ma che tu sai fare il panettiere, sai fare l'idraulico, sai fare l'elettrico, che sai fare? Che sai fare? Beh, ti so rompere i coglioni a te e a Riccardo, tanto che telefonate apposta per insultarmi, quindi già questo è il mio lavoro. Sai quanto sono certo, mi pagano per insultare te, capito? Certo, certo. E godo come un pazzo la sera, aspettare che tu chiami. Sei inutile. Quanto e mi dispiace che non spendi soldi perché il numero è verde, se te, non potrei il doppio. E per esempio quel signorino, quel professorino Boccia che ho sentito poco fa. Vabbè, adesso che c'entra? Beh, non è un soggetto inutile. Tu mi dici, Boccia, che sai fare nella vita? Adesso te do farina, acqua, fammi vedere quante pagnotte sai fare. Io sfido che dalle lavori così mando l'ispezione. Però ha ragione Mauro, il finanziamento pubblico va cancellato, così avevano deciso gli italiani anche con un referendum, l'avevano deciso gli italiani o ti fa schifo quello che decidono gli italiani, Parenzo? Ti fa schifo quello che decidono gli italiani? Ti fa schifo? Ho ti fa orrore? Ho detto una cosa diversa, ho detto che ho votato a favore di tutti quei referendum. Oddio, ma non stare nel dettaglio quel e quell'altro, bisogna cancellare il finanziamento pubblico. Per ridurre, no, ma ridurre, ma che vuol dire ridurre? Basta, cancellare. Ridurre vuol dire meno dipendenti dei partiti. Ma vuol che dire c'entra meno dipendenti? Quello, ma dipende dal finanziamento pubblico, forse non hai capito. Beh, è tutto là, la greppia. Bisogna togliere, soldi, bisogna togliere i soldi ai partiti, ai giornali di vanno partito, ridotti tutto. Certo. No, va cancellato, non ridotto, va cancellato, è diversa secondo la cosa. Secondo me vanno ridotti, perché la democrazia ridotti. Ha un costo e serve. La democrazia ha un costo, sì, ma devi andare a bussare alle porte. Come si fa, Mauro? Bussare alle porte, toc toc. Volete i soldi per fare politica? Ci date dei soldi per fare politica? Certo, io so che questa cosa qui è molto in voga e piace molto. Non è che in voga, è che voga. Scusa, l'hanno deciso parlare? Gli italiani. No, no, ma io con lei non parlo. Luciani, guardi, lei, posso con lei parlare? No, c'è Antonio da Roma. Ricordi a Parenzo che il PD brucia 3 milioni e mezzo di euro l'anno solamente per gli affitti? Glielo ricordi? Glielo ricordo, Antonio da Roma. Antonio. Pronto? Dica. Allora senta, mi dica questi due che ci hanno chiamato sia ieri sera che stasera. Sì. Che sera i genitori si facevano una pippa. No, fermo lì. Gianni D'Ancona. Fermo. Ma che ne so, Gianni D'Ancona. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, io veramente avevo chiamato per via di quel Riccardo, quell'invasato che ha chiamato ieri sì, sera. Sì, allora? No, ma è già... quel coglione che dà del coglione a tutti allora? E dà del leccaculo a Parenzo, sì. Lui se ne intende bene di leccaculi, sì, stai... visto che vota per un partito dove sì. I leccaculi ce ne sono cioè, altri. Cioè quello di Berlusconi, dice lei. Ci sentiamo domani 18.30, ciao. Sono tutti iscritti ai tribunali quelli che stanno al partito del Berlusconi. Che ma cosa stai dicendo, Annarella? Noi siamo tutte persone per bene. A voglia te, a Roscia, a quella, a quell'altra, a nipote del Barocco. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Cosa vuole? Metterla al 41 bis, Berlusconi. Radio 24. La passione si sente.